fate qualcosa per salvare la razza umana. Sì, sì, non c'è siamo dubbio. Tutti nelle vostre mani. Sì. Fate degli appelli, cercate di far curare amorevolmente gli omosessuali senza continuare a rompere i cocomeri con sta storia dei matrimoni, dell'adozione, dei diritti civili. Ci sono pochi soldi e questi vanno destinati alla continuazione della specie. Punto e basta. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Vengo anch'io. No, tu no. Vengo anch'io. No. E vengo anch'io! No, tu no! Perché? Perché no! Il problema di Renzi è Renzi, perché Renzi è sceso in questo agone in polemica con tutti. Io ho visto sui giornali, diciamo, non solo vuole rottamare, diciamo, la vecchia guardia, ha litigato con la Bindi, ha litigato con Franceschini, ha litigato con Vendola, ha litigato con Casini. Non so, in queste condizioni non si governa il paese, cioè. Noi abbiamo bisogno di qualcuno che unisca, non di uno che litiga con tutti. Questa è la mia preoccupazione. Vengo anch'io. No, tu no. Perché? Perché no? Oh, ne dicevano di tutti i colori, su Renzi, questa era D'Alema. Anche Fioroni, che adesso dice, beh, con l'80% non c'è bisogno di un altro candidato. Mi sembra che ci sia solo un candidato in campo, il signor Fioroni, uno dei RAS cattolici del Partito Democratico. Ho paura che Renzi divida, diceva l'anno scorso. Io è difficile che mi spavento di Matteo. La mia unica paura è che noi siamo a un passo dalla possibilità di poter governare l'Italia in una straordinaria alleanza tra moderati e riformisti, per i quali serve quelli che uniscono e non quelli che dividono. Ma poi ne ha dette anche di peggio Fioroni, Franceschini, che adesso appoggia in carrozza Renzi, all'irruenza di Renzi preferisco Bersani. Io ho fatto il segretario del partito, ho fatto il capogruppo di maggioranza e opposizione, esperienze amministrative e professionali. Se mi dicessero vai al posto di Monti, direi non mi sento all'altezza. Allora faccio solo questa valutazione. Per quel tipo di ruolo, tra l'esperienza di governo, il buon senso, la competenza di Bersani e l'irruenza, la rottamazione di Renzi, io mi sento più sicuro a fidare il mio paese nelle mani esperte di Bersani. Tutto qua. Beh, caro Parenzo, in questo caso voce canta, ti trovi proprio al congresso del Partito Democratico a Genova, buonasera! No, nessun congresso, ho sbagliato come sempre. Sì, congresso, festa, scusa, la festa, festa che cazzo... Festa nazionale, ma è uguale, dai, su. Buonasera compagni e buonasera compagni, ho una grande esclusiva da regalarti, un'intervista lunghissima al ministro Cancellieri, un'intervista lunghissima che ho realizzato, che ho realizzato poco fa, ora tra poco ti becco Bersani che sta per uscire, perché come ha detto lui, c'è mica pentole senza coperchi, se mica pensiamo mica andare avanti con pentole senza coperchi. Tra l'altro Bersani che dice, Serre e Briatore mi hanno denunciato, non prenderò mai voti da loro, riferimento a Renzi, però poi basta con questa storia del Partito Democratico di cui non frega nulla a nessuno, interessa solo ai giornali, non è che la gente per strada si chiede, ma Renzi che farà? Farà il segretario del Partito Democratico? No, la gente se ne fotte, ovviamente non quelli del Partito Democratico, però è chiaro che farà il segretario del Partito Democratico, non frega niente a nessuno, Bersani. No, perché? La gente che ha votato destra, quella vecchia signora là che mi ha detto che comprava le zucchine, ma la sento mia, no? Parlo con quello lì. Certo che con Briatore o con Davide Serra io non riesco, mi hanno denunciato a me, quindi io ho preso le uniche due denunce in vita mia, le ho prese da questi due qua, un altro si prende i complimenti da questi due qua, io mi sono preso le denunce, quindi c'è un limite, no? Questo è Bersani avvelenatissimo. Ma ti interessano le cose dei 5 Stelle, Parenzo? Tutta questa discussione tra Pro Grillo, questo piccolo gruppo che non vuole la dittatura di Grillo, è sempre la solita minestra, la solita solfa. Guarda, mi ha rotto i coglioni, detta con un linguaggio crudo ma efficace. Sì, bravo. Anche soltanto le modalità che loro hanno attuato per quella discussione totalmente inutile che hanno fatto. Le modalità, il voto, dobbiamo fare la diretta streaming, si sono chiesti, votiamo se fare o no. Mi hanno rotto i coglioni, si può dire? Sì, sì, come no, la voglia. Ecco, ecco, questo è il punto. Buonasera caro, come sta? Questa è la Zanzara. La Zanzara, se mi stai ridere. Ecco, senta, lei è un elettore di Bersani, giusto? Sì, esatto. Molto bene, quindi Bersani vincerà il congresso, questo lei mi rivela. Me lo auguro. Me lo auguro, grazie. Ma non è candidato, ma non è nemmeno candidato. No, era un dirigente del partito questo. No, no. Oh, Brunetta e Fede insieme, Brunetta ed Emilio Fede hanno firmato i referendum radicali. Anch'io poco fa. Ma vai a firmare anche tu, dai, vai, tanto è una buffonata ormai. Firmano tutti. Firmano tutti, pure Emilio Fede. L'ho firmato, ho twittato poco fa. Ma veramente hai firmato? Quello giro, non dico mai. Vabbè, ma adesso, dopo la tua firma sono diventati una farsa questi referendum. Vado al banchetto, stanno adesso al banchetto. Ho firmato, così te lo fai dire da loro direttamente. Ho firmato 10 minuti fa, tutti tranne quello sull'abolizione del finanziamento pubblico. Pensate come stai messo, è l'unico che avrei firmato. A parte che ormai non credo più nel referendum, dunque non servono assolutamente a un cazzo. Tanto il giorno dopo fanno la legge che annulla l'effetto del referendum. Brunetta. Pensando male, l'idea che in questi giorni i giornali hanno sottolineato è che Berlusconi si sia impegnato in primis per la vicenda del referendum che riguardano la giustizia e poi anche un'ipotesi di amnistia. Penso che sia una cretinata questa, è un pensiero cretino, perché nessuno dei referendum sulla giustizia riguarda Berlusconi. E allora perché andate a firmare? Andate a firmare perché pensate che possa interessare a Berlusconi, non è che firmate perché credete nel referendum radicali che non vi filate da anni. Vabbè, lasciamo perdere, va. Poi Brunetta si fa prestare i soldi da dare ai radicali a un certo punto. Tutti quanti al tuo funerale, vengo anch'io, no tu no. Vi ringrazio molto, il mio documento è là, grazie. Aspetta, chi mi presta questi soldi? Non ho un euro. Oh, ma l'audio del giorno è quello di Edward Luttuak, mitico, il quale così parla degli arabi che lui vede a Via Veneto. Bisognerebbe dire a Luttuak che a Via Veneto non è che circolano tutti sti arabi poi, comunque. Luttuak, gli arabi e i sacchi di immondizia, sentite. Noi conviviamo, tutti noi, americani e europei, abbracciamo, sbaciucchiamo questi dittatori arabi, una parte che si fregiano di titoli come re, sceicco, emiro, eccetera, ma tutta gentaglia che non fanno niente, quando vengono via Veneto con le loro mogli coperte di, come sembra, dei sacchi di immondizia vaganti, entrano nelle gioierie e comprano questa roba, sempre perché i soldi in quei paesi vanno solo a chi non lavora. Si potrebbe poi sperare tutti. Hai capito, sì? Migliore. Le mogli ricoperte da sacchi di immondizia. Luttuak 800240024, questa è la Zanzara con Parenzo. Allontanate che in sottofondo si sentono quelli che parlano lì alla festa del Partito Democratico, cioè non si sente un cazzo. Ma adesso ti presento una persona. No, stai zitto. Ti presento una persona. Uno che altro che senatore a vita, ci dovrebbe essere lui lì sullo scranno senatoriale. Io non vorrei nessuno, ma se proprio bisogna nominare un senatore a vita in un altro mondo, in un'altra vita, in un'altra epoca, quando magari il Senato sarà una cosa diversa, io nominerei questo. Lo sai chi è, Parenzo? No, ma tremo. No. Maestro, buonasera, Tinto Brass. Buonasera. Come sta, caro maestro? Molto bene. Beh, la sento innanzitutto con questa voce squillante, sono contento perché, insomma, se la passava male fino a qualche tempo fa, caro Brass. Sì, no. Qualche tempo fa, adesso sto rimettendomi e sono quasi guarito del tutto. Però scusi, Brass, diciamo, adesso poi parliamo anche delle piccole cose, delle cose gravi che le sono accadute, ma... scusi, ma sti 5 senatori a vita, ma non ci sta meglio lei con le sue opere grandiose che ha dato al cinema, o no? Assolutamente. Stavo meglio io. Sarebbe stata una nomina anche sui generis, no? Però con un maestro del cinema, senatore a vita, o no? Esatto, perfetto. Lei l'avrebbe fatta tranquillamente, no? O no? Poi, insomma, sì, abbastanza. Però se fosse cambiato il Senato con qualche spazio diverso, con qualche possibilità diversa. Insomma, sì, l'avrei fatto. Parenzo, saluta il maestro innanzitutto che si è rimesso. Ma no, io lo conosco il maestro da anni. Minchino, sono cresciuto con le sue opere, i suoi capolavori. Paprika, La Chiave. Tutti noi abbiamo visto quelle sequenze di grandissimo cinema, quei movimenti di macchina su questi sederi pazzeschi, cioè quello che è Tintoretto, è Giulio Romano, sono affreschi, non sono culi. Senta, Brass, ma oggi chi è il in Parlamento il culo più bello, almeno da quello che lei ha visto? No, assolutamente. Ma io lo guardo poco il Parlamento. Lo guarda poco, Non mi ispira. Ma c'è una politica italiana, una donna che fa politica in Italia che la attrae da questo punto di vista, che potrebbe essere perfetta per uno dei suoi film? No, chi è? Chi è? Chi potrebbe essere? Che me lo dica lei. Non ce n'è nessuna. Nessuna? Attraente. Beh, dicono questa Moretti, la conosce questa di Vicenza del Partito Democratico, una tale Moretti, l'ha mai vista? No, non l'ho mai vista. Non l'ha mai vista, è tanto a lei che gli frega della politica, no? Appunto. Non me ne frega neanche. Ma è vero che voleva fare un film su Berlusconi e non gliel'hanno fatto fare? Sì, volevo fare, l'avevo proposto, ma poi è tramontata l'idea. Com'è il titolo? Come doveva essere il titolo, signor Blas? Ciao Papi. Ciao, grazie. Grazie Papi. Sì, grazie Papi. Grazie Papi. Beh, sarebbe stato un film eccezionale con come dove l'avrebbe ambientato questo film? Dove era ambientato? Ad Arcore? In Casino. Ah, come un casino, scusi. Quei posti che sono dei casini, insomma. No, ma l'avrei ambientato, non so, l'avrei girato in ambienti diversi. Senta, ma lei nel 2010 ha avuto questo ictus, no? Oggi la vedo in grandissima forma. È vero che voleva suicidarsi? Volevo anche suicidarmi, volevo smettere di vivere. Poi dopo mi sono tornati alla mente le canzoni, le poesie, i passaggi dei film, e ho detto teniamo ancora un poco, vediamo se questi passaggi sono realizzabili, sono possibili di realizzare. Ma perché c'è ancora in testa il fatto di smettere di vivere, di fare un gesto, che ne so, alla Monicelli, no? Alla Monicelli, no? Beh, insomma, anche lui ha fatto bene, veramente lui aveva anche un'età maggiore di me, ma insomma quando non ci sono più dei motivi validi, si può assolutamente è valido, è possibile interrompere l'esistenza, porre una fine all'esistenza. Dunque lei ci pensa ancora a questa cosa qua? No, adesso ho un progetto di un film con Caterina Marzi. Sì? Sì, che è la sua musa, no? La sua che è la mia musa ermeneutica, che si chiama il film Viva l'isola che non c'è. Allora, ci sentiamo tra un attimo dopo il traffico, è 800 24 00 24. Parenzo, sei scomparso, che hai fatto? No, ascoltavo in religioso silenzio il maestro, volevo anche chiedergli se ancora, magari ci risponderà dopo la pubblicità, se ancora fa la prova della monetina, che è un class boy, no? Sai cos'è la prova della monetina? Cioè, innanzitutto voglio chiedergli se ancora fa sesso, nelle sue condizioni. Se io faccio ancora sesso, sì, chiaro, assolutamente. E come fa? Certo. Come fa? E come faccio? È una cosa... Come viene. Come viene, così, cioè, là certo, sulla sedia, certo, un po' immobilizzato, comunque riesce ancora. No, non sono immobilizzato, intanto cammino, sono in piedi. Ah, vabbè, sei rimesso definitivamente allora? Beh, quasi definitivamente. Quasi definitivamente. Ma c'è ancora qualche processione di attrici che vanno, no? O no? Sì, vedono. Vedono? Che fanno? Quando al festival a Lido, poi dopo sono venute a trovarmi a casa, assolutamente. Ma ci sono dei provini che lei improvvisa o no? Dei provini ci sono. Adesso ce ne sono fatti pochi e farò di più, ma andando avanti. Ma le fanno qualche regalino o no, Brass? Beh, sì, mi fanno qualche regalino, assolutamente. Tipo? Tipo, mi mostrano. No! Che sono capaci di fare, sì. Addirittura, cioè, che fanno? Si toccano un po'? Tante cose, dai, forse, tante cose. Le zanzare di casa mia si nutrono di me. Sei ancora a casa, Simo? si vola via, si svegliano per me. Oh, il bello adesso, caro Parenzo, è che Alfano chiede al PD cosa ne pensa sulla questione della retroattività della legge Severino. Io a pronunciare tutte queste cose divento pazzo. Divento matto, cioè hanno approvato loro questa legge, la famosa legge Severino, l'hanno approvata anche quelli del PDL e non hanno mai sollevato una questione che riguarda la Costituzione, la retroattività, non è stato mai sollevato questo punto dai deputati e dai senatori del PDL che hanno approvato questa cosa. Adesso invece si vuole stare lì con gli ammenicoli come i leguleei a dire no, forse è Costituzione. In Italia non c'è mai nulla di certo. Quando si approva una legge c'è sempre la possibilità di interpretarla in mille modi, non è possibile, non c'è mai la certezza di nulla, di nulla. La cruda verità. Vabbè, siamo con lasciamo perdere queste cose politiche. Brass, a lei chi le piace in politica adesso? Renzi le piace? Abbastanza. Tanto per rinnovare un po' il Partito Comunista, un poco vabbè, non è più comunista, diciamo, il PD, però l'ex Partito Comunista, sì. L'ex Partito Comunista. Ci vorrebbe Renzi. Lei lo voterebbe, Renzi? No, io non voto nessuno. Io guardo cosa fanno, ma assolutamente non li voto neanche uno. Cioè, se l'ultima volta chi ha votato l'ultima volta? Non ho votato nessuno, da tanto che non voto più. Ma guardo cosa fanno. Mi pare che Renzi abbia delle buone idee. Ah, delle buone idee. Dunque, anche lei sale sul carro di Renzi. Tinto Brass fa il tifo per Renzi perché dice che ha delle buone idee. Vabbè, non c'è niente di male. Senta, ma scusi un attimo, signor Brass, ma lei, in fin dei conti, un po' Berlusconi, quello che, insomma, si sa, invitava un sacco di gente a casa sua, no? Gente tra cui anche, forse, dicono anche delle donne. Lo capisce? Cioè, riesce a capirlo Berlusconi? Ma, mai, ma a me non mi ha mai invitato, però. Ha fatto male, forse, Che certo, ha fatto male, non ha, la prova del 9 io non ce l'ho, insomma, che cosa facesse non lo so. Vabbè, d'accordo, però lei lo capisce in fondo, no? Cioè, sì, certo, lo capisco, se fa le cose lo capisco perfettamente, ma purtroppo le cose non le fa. E in che senso non le fa, scusi? Beh, non so, non le fa, io non l'ho mai visto fare da tutte le cose. Ah, secondo lei non faceva niente, dice? No, insomma. Ha dei dubbi, certo. Ha dei dubbi. Ma perché? Per la famosa storia della prostata, eccetera, o no? Beh, sì, non so, qualche cosa c'era stato, assolutamente no. Non mi ha convinto assolutamente. Parenzo, dove sei? No, volevo capire, appunto, sono sempre qui alla festa. Sì, vabbè. Sì, la come festa direbbe Brass dei comunisti. No, ma alla fine Berlusconi quindi faceva un po' come lei, cioè guarda solo ultimamente, perché non è che può agire. io non guardo solo... Ma e che fa, scusi? Faccio delle cose, guadagno il tempo. No, faccio delle cose divertenti e Berlusconi non so che cosa facesse assolutamente. Ma queste cose divertenti, che fa uno alla sua età, dopo quello che ha avuto? Per carità, io sono contento se lei è ancora attivo da quel punto di vista, però non è che uno si può permettere troppe cose, no, signor Brass? No. Diciamo... Una volta ogni due giorni. Ogni volta ogni due giorni si può permettere qualche cosa, qualche cosina, diciamo, qualche piccola cosa. Ma tu lo sai, Parenzo, io ho letto un'intervista recente di Brass eccezionale in cui dice che mandava un sacco di donne a Fellini. La sapevi questa cosa, tu che sai sempre tutto, Parenzo? Lo sapevi? A chi le mandava? A Fellini. No, forse l'ho letto dall'intervista che ha fatto Malcolm Pagani. Ma non lo sapevo, ma perché Fellini era fedele alla signora Masina, la signora Fellini, mi pare, no? Sì, però quando vedeva i film miei mi chiedeva sempre notizie delle attrici e quando c'era qualcuna che la trovava più interessante, diceva, sì, mandamela. E io la mandavo molto volentieri. E che succedeva poi? Non so, io non ci andavo. Più o meno poi lo sapeva. Sapevo qualche cosa doveva succedere assolutamente. Per forza. Va bene, dai, sono le 18:52. Che deve fare? Che succede adesso? No, niente, vi saluto, sono stanco. È stanco, non la vogliamo. Non la vogliamo trattenere oltre, per carità, eccetera. Va bene. Un abbraccio! vi ringrazio. Ciao, ciao, ciao. Saluto a voi, saluto a voi. Quando la zanzarita tormenta la mia noce, passa in blanco, mañana io sono stanco. Andiamo con Vincenzo, provincia di Firenze. Buonasera Vincenzo. Buonasera. Dica. Ma niente, io quando ho parlato prima con la signorina ho detto l'amico del giaguaro, riferendosi sì. a lei, ho detto ha ragione a far passare le dichiarazioni Bindi, Fioroni eccetera. No, Bindi no, perché Bindi per adesso non ha detto niente pro Renzi. No, passate di un anno fa, di sette sì. mesi fa. Ah, mesi passate, fa. Sì. Sì, passate, come sono passate? Allora? Secondo voi Renzi sta dicendo le stesse cose oggi che diceva otto mesi fa? No, anche questo è vero, infatti l'abbiamo detto più volte, cioè, anche Renzi è cambiato, dice cose molto più di sinistra rispetto a prima, non c'è dubbio. Per dice cose più serie, no? La no, più serie non lo so, dice cose un po' più, diciamo, meno berlusconiane, un po' più per catturare l'elettorato del Partito Democratico, la base del Partito Democratico, questo dice, Questo è vero e chiaramente, allora, dobbiamo fare una piccola riflessione. Vabbè, non quella seria, riflessione dobbiamo fare. Non seria, perché tanto non siamo in un paese, in una nazione seria, per cui è inutile fare tanti discorsi. Se per cambiare questo andazzo il cavallo è Renzi, montiamo su Renzi e poi discorsi. Dopodiché si vedrà se ci libera da questa ossessione che non è per me, ma purtroppo per milioni di italiani non era governare tipo quello che voleva smacchiarlo, ma era combatter lui. Ed è questo poi che è Vabbè, successo. Grazie Vincenzo. Anna da Firenze, buonasera Anna. Buonasera. Dica. Volevo lasciare un messaggio a Renzi che non faccia tanto incalasso, perché sennò fa la fine delle primarie. L'ha fatte, l'ha volute come voleva, non le ha vinte, è sicura di vincere. Ma sono tutti dalla parte sua, sono tutti dalla votato Bersani alle sì, primarie. Ma sono tutti dalla parte sua ormai. Privatico io le sezioni non lo voteranno se si candida a capo di governo. Fa quella che ha fatto lui con i suoi renziani che non hanno votato il D nelle ultime elezioni, per non far vincere Bersani. Non mi pare. Diceva Bersani per 5 anni governava. Ciao signor Renzi. Va bene Anna, grazie. Giovanni da Campobasso, buonasera. Giovanni? Sì, buonasera. Dica. Ecco, io volevo dire che meglio di così non glielo possono far capire al signor Silvio Berlusconi. In che senso? Lui faccia quel passo indietro e fa, comanda la politica come Grillo. Perché se non vuole fare la fine di crack, sì? Meglio di così non si può fare. Vabbè, Giovanni, lei che dice? Dunque, si deve dimettere lui dal Senato senza fare troppe storie? A Reggio Severino l'hanno votato anche loro. Vabbè, ci sentiamo dopo, 800-24-0024, la Zanzara vive e lotta insieme a voi, Giornale Radio. Ormai è tutto degradato ormai. La Zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Gratta gratta, ma peggio è. Pure lo spray a di Zanzara mi son messo fiè, ma lei gira sempre intorno a me. E balli un twist, e balli un twist, la Zanzara twist. Una botta a polpaccio e poi all'altro, una botta nel braccio e poi all'altro. Prendila, prendila, schiacciala, schiacciala, tiè. C'è bisogno di una commessa insieme. Io non mi sono candidato per prendere il partito, io mi sono candidato per restituirvi il partito, io mi sono candidato per restituirvi il diritto a sperare in un'Italia che possa finalmente tornare a pronunciare la parola bellezza. Vabbè, lasciamo perdere queste frasi un po' così, no? La che si dicono bellezza, sì, le frasi che si dicono sempre, ma dai. La frase del giorno è quel fuori onda di Renzi, dai. Che dice Bersani era un po' spompo. Mi ha fatto un culo così, poi però l'ho visto distrutto. Come ti stendi nel letto, quel noioso insetto passa dall'orecchio e sempre gira intorno a te. E balli un twist, e balli un twist, la Zanzara twist. Ma sbaglio o ieri, signor Buonanno, il Buonanno ti ha insultato ben bene, signor Buonanno. È una persona disgustosa come al solito, ma per fortuna davanti a me è apparsa una donna meravigliosa, bionda, che ti passo chi e è? Devi intuire dalla voce, soltanto dalla voce chi è. I tuoi soliti scherzi. Una donna meravigliosa, bellissima, che condurrà stasera una grande serata qui alla festa del Partito Democratico, e tu solo dalla voce devi riconoscere, non ti dirò lo so, ma tanto già lo so, sarà Luisella Costamagna, chi è? È lei, dai, una bionda che conduce alla festa del Partito Democratico. Vabbè, dai. Chi è vaffanculo Cruciani? Chi è che può condurre un dibattito alla festa del Partito Democratico? Parenzo mi ha detto una donna con i capelli biondi, bellissima. Secondo me non può che essere una sola. Cioè una... Io mi dissocio, ripasso la linea. Va bene, chi è? Luisella, chi è? Come chi è? Dai, chi era? Su. È l'onorevole Costamagna. Ecco, appunto, lo vedi che... Vedi che ci ho beccato, vabbè. Buon anno che ti chiama sottosviluppato, ti dà del sottosviluppato e frustrato. Che non mi fa dormire la notte. Vabbè, ma quale sarà la prossima pagliacciata? Qual è la prossima pagliacciata che ci propone? La prossima pagliacciata legislativa che propone? Qual è la prossima pagliacciata? Sai cosa credo di te, Parenzo? Penso che tu sei uno un po' sottosviluppato, che ha tanti problemi mentali, che fa un programma che ha fatto schifo. Ancora e non che è, a quel punto venuto. Questo programma che fa schifo adesso devi prendertelo con chiunque, perché sei proprio frustrato, ecco, sei proprio un ragazzo sarà? Frustrato, mi fermo pena davvero. Ti ho beccato. E poi dice che guardi anche i film porno, una cosa del genere, senti. E così smetti di rompere le palle in giro. Ciao Gianluca. Secondo me sei uno che guarda film porno, guarda. Ah, Parenzo guarda film porno? Perché? Ma secondo me sì. Perché dici? Ma perché è un frustrato di natura. Dici, beh, meglio poverino. Guardare quello dei comizi di poverino. Mi fa un po' pena, ma senti Parenzo, comunque sei tranquillo che per te una ciotola di latte qualcosa ti daremmo sempre, stai tranquillo. Titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Obama chiede al Congresso un voto rapido per l'attacco alla Siria, un intervento limitato per indebolire Assad e mandare un segnale ad altri. Tensione nel Mediterraneo, i radar russi rilevano un lancio di missili, era un test, USA e Israele, tweet il Papa, condanno le armi chimiche. Bot risposta Renzi e Bersani, il sindaco ha vinto le primarie, poi era spompo, l'ex segretario no ai profeti nei partiti, il PDL pensa anche all'Italia. Idea PDL sulla decadenza di Berlusconi, Schifani, Grasso sostituisca i membri della giunta che hanno dichiarato il voto, la replica non è possibile. I 5 Stelle divisi sulla questione alleanze, Grillo siamo in guerra, pronto un altro vaffadè, fuori chi si guarda l'ombelico. L'Ocse, l'Italia unico paese avanzato in recessione, conti pubblici male ad agosto, sale il conto per l'abolizione dell'IMU, tagli in tutti i settori. La ragazza trovata morta nel suo ufficio, fermato il datore di lavoro, la giovane era incinta, secondo la polizia l'avrebbe uccisa lui per paura dello scandalo. Zanzara! C'è una zanzara tigre. Allora, si dice che Murdoch forse avrebbe offerto una cifra enorme, 7 milioni di euro, io non ci credo, ad Emilio Fede per scrivere le memorie del Bunga Bunga. E ci ha rivelato Fede Dago Spia, Fede incerto. Ah, ecco. Cioè, perché non è credibile Dago Spia. No, Fede incerto se accettare o no, ma magari glielo chiediamo. Intanto beh, io per molto meno lo scrivo io, per molto meno. Sì, ma tu non sai un cazzo, questo è il punto. Beh, anche questo è vero. Beh, cioè, Fede qualcosina forse sa, qualcosina. Senti, ma io tra poco pubblicherò le foto che firmo i referendum radicali. Sì, valgono 4 euro al massimo. Berlusconi non sarà mai latitante, anzi non può chiedere la grazia, sentiamo perché. Fede, il professore ha deciso che non chiederà la grazia. Chiedere la grazia sarebbe come se io per la mia accusa patteggiassi, ammetto la mia colpa, ma lui non può patteggiare assolutamente, al di là di quelli che sono per tutti i contorni eccetera. Questo non è tipo, cioè chiedere la grazia è una missione di colpa. Non sarà mai un latitante, dice sempre Fede. Comunque Craxi, del quale sono stato amico e me ne vanto, è andato, è risultato latitante, ma per rispondere non sarà mai latitante. Non è mai latitante. So che Vabbè, se lo dice lui, andiamo a Cosenza. Antonio, buonasera. Buonasera a voi, signor Cusciano, buonasera. Sì. Si può dire, come mai una trasmissione, anche prima di voi che siete stati in ferie, si può fare su due ore di trasmissione, parlate di un'ora e mezza di Berlusconi, è uscito fuori il PD, ci sono tanti altri problemi in Italia. Come mai date troppo spazio all'onorevole Berlusconi? L'onorevole Berlusconi è stato condannato, ha avuto soldi di avvocati per difendersi. Sì. Doveva difendere ormai è stato condannato, deve pagare la pena. Sì, allora? Anzi, e come mai parlate sempre? Ci sono un sacco di problemi in Italia. Disoccupati, esodati. Ma parli lei di disoccupati e esodati? No, ha ragione. Parli lei. Non si può parlare, che par condicio. Par condicio, quale par condicio? What par condicio? Come mai parlate due ore solo di Berlusconi, grazie. Napoletano si dovrebbe vergognare se lo dà la grazia. Berlusconi non la può avere la grazia, perché ha altri. Berlusconi cumulerà altri 10 anni di carcere, perché c'è altri processi in corso, quindi la grazia si dà a una persona che vuole chiudere con il passato. Ma lo vede che sta parlando lei di Berlusconi? Ma perché non è possibile. Ma perché lei ha avvelenato su questa vicenda, giustamente ha avvelenato, e allora dica la sua, perché dice che non si può parlare di Berlusconi? Ne sta parlando? No. Ma lei ne sta parlando perché dice basta, non dobbiamo più occuparci della vicenda Berlusconi, è stato condannato, esca dal Senato, allora... Non solo voi come Radio 24, oppure il 20, cioè tutti i quotidiani, tutti i giornali in prima pagina mettono Berlusconi. Vabbè. Ma ci sono problemi molto più importanti. Sì, lo sappiamo, Enzo da Torino, buonasera. Sì, buonasera Cruciani. Allora, io sono un vostro affezionato ascoltatore e sono di idee liberali che l'anno scorso alle primarie del PD ha visto con favore la candidatura di Renzi, allora? come elemento di rottura rispetto a una classe politica ormai non affidabile. E rimango stupito da una cosa, che un giovane che si è così proposto come elemento di rottura per dare uno shock al paese, che ha bisogno, perché altrimenti non ne viene fuori dal declino irreversibile, adesso improvvisamente questo signore, che gode comunque pur sempre della mia stima, si faccia fagocitare da tutta la vecchia classe politica che lui ha combattuto. Vabbè, lei è stupito dal fatto che adesso si appoggia a quelli che prima lo contrastavano. Vabbè, mi scusi, sono scoraggiato, perché significa che in Italia non cambia niente, rimane un paese antropologicamente corrotto. Proprio antropologicamente corrotto, dove è impossibile cambiare. Cioè, sono veramente scoraggiato. Va bene, grazie. Pietro, provincia di Macerata, buonasera. Buonasera. Io volevo dire soltanto una cosa, signor Cruciani. Sì. No, che ieri sera ero talmente arrabbiato perché ho sentito due persone che l'hanno chiamato e hanno detto un sacco di baravacce, di improperi, uno appresso all'altro. Ma di cosa si stupisce lei, scusi? Come? Di cosa si stupisce? Non ho capito. No, questi qui si rivolgevano a lei. Sì, allora? E gli hanno detto un sacco di improperi. Vabbè, ma le dico anch'io. No, il fatto è che mi trovavo a letto, io l'ascolto tutte le sere, e tante volte ho pensato di poterlo chiamare. Sì, ma voglio dire, ragazzi, diciamocela tutta, la parolaccia, il turpiloquio. Parenzo, dove sei che non ti sento? Dove sei? Sono andato sono andato dentro la direzione del partito, perché se stavo fuori all'aria aperta sentivi tutti i rumori della gente, che a te non piace sentire le persone. No, a me piace moltissimo. Sei là assente, non parli come al solito. Comunque, sono Pietro, voglio dire a Pietro. Container. Sì, d'accordo, voglio dire a Pietro, caro ascoltatore, che il turpiloquio, la parolaccia, l'espressione forte, sono cose che fanno parte della vita. Noi qui riportiamo le situazioni reali, quelli della vita. Ma questo l'ho capito. E allora basta di stupirsi per questa cosa qui. Le posso fare la storia della parolaccia minuto per minuto nei secoli. Quando è iniziata, chi le usava, chi non le usava, politici di grande fama. Il privato è parolaccia, anche il pubblico è un po' parolaccia, bisogna abituarsi. Va bene, ha ragione, ma io non sono fossera per le mie orecchie, sono andato molto male. Vabbè, Claudio da Pisa, buonasera. Pronto, buonasera. E volevo intervenire riguardo all'intervento dello scrittore Henry De Luca ieri sera. Sì. io a un certo punto ho spento la radio perché sono rimasto scandalizzato. Aspettavo che chiamaste l'ambulanza, ma non l'avete chiamata. Ma che dobbiamo chiamare l'ambulanza? Perché volevamo sapere perché, fino in fondo quanto era disposto a prendere le armi contro la TAV. Sì, quanto era disposto? L'ho lasciata la trasmissione perché mi è sembrato che quello fosse un puro istigatore alla illegalità. Nonostante il dire pacato, lo sminuire, il ritrovamento di oggetti atti ad offendere poliziotti operai, ha abusato del termine stupro per il territorio e la popolazione. Vabbè, della Val di Susa. Giovanni, grazie. Sì, buonasera, sono Giovanni Caffaro da Milano. Sì, anzi, chi era prima, no Giovanni? Chi era? Ah, sì, da Pisa, sì. Giovanni, allora, dica. Senta, io ho creato un gruppo su Facebook che si chiama Tagliamo le pensioni e gli stipendi d'oro, la marcia dei 5.000 a Roma, perché sono stanco di vedere le pensioni d'oro, persone che percepiscono 90.000 euro al mese. Sì, ma faccia quello che vuole, ma le marce su Roma contro le pensioni d'oro non servono a nulla, dai su, io, Giovanni, io, non servono a cazzo. Io dai. Ho già raggiunto in 2 settimane quasi 1.000 iscritti. Sì, ma lei può fare, ma lei può i fare 5.000, ma sì, ma faccia, anche i 50.000 andare davanti a Parlamento. Faccia tutte a Roma le petizioni, e lei fa sentire la nostra voce. Fa sì, sentire ma la va benissimo, voce. Anch'io sono contro le pensioni d'oro, bisogna tagliarle, bisogna limitarle, e a me non me ne frega niente dei diritti acquisiti. Se uno prende una pensione di 90.000 euro come un tale che si chiama Sentinelli, che vorrei vederlo in faccia, qualche volta vorrei sentirlo parlare, Sentinelli, un ex Bravo. Della Telecom, per carità, le prende secondo la legge, ma 90.000 euro e rotti, non mi ricordo quanto di pensione, ma dico, ma stiamo scherzando o no? Cioè, bisogna tagliare queste cose, eliminare questa questione dei diritti acquisiti, però guardi, niente manifestazioni, la prego, basta manifestazioni, non ne posso più, faccia una bella petizione online che è meglio, va, borsa. Zanzare, je trebe ti montagna, in colina, in campagna e anche al mare. Giuseppe, Davide, vi voglio bene. Davide e Giuseppe, vi voglio bene. La parola d'uma dirà te più di stai cinte che se no dormire. Zanzare. E ancora a casa, Simo. Pomate, cipro nella macolur che niente fa. Ma la frase del giorno resta sempre quella di Luttua, che è la più bella che ho sentito questa mattina da Alessandro Milan. Edward Luttuak, che dice le arabe con i sacchi di immondizia in testa a Via Veneto. Io non ho mai visto in realtà tanti arabi a Via Veneto, comunque. Noi conviviamo, tutti noi, americani e europei, abbracciamo, sbaciucchiamo questi dittatori arabi, una parte che si fregiano di titoli come re, sceicco, emiro, eccetera, ma tutta gentaglia che non fanno niente, quando vengono in via Veneto con le loro mogli coperte di, come sembrano, dei sacchi di immondizia vaganti, entrano nelle gioierie e comprano questa roba, sempre perché i soldi in quei paesi vanno solo a chi non lavora. Siamo qui 800 24 00 24. Caro Parenzo, ti presento una persona che non noi è mai venuta. Pensa? Ah, scusami, noi com'è? Scusi, Luttuak. Noi pensa che il problema in Italia, grande problema, quasi come Siria, è sindacato. E Assad verrà bombardato. Noi pensa che con aerei Tokamak, missili Tokamak, come si chiama, bombarda Camusso, ha risolto il problema dell'Italia. Ma che c'entra la Camusso? Molto grave quello che fate a questo paese, paese arretrato, paese popolato da arretratezze culturali come il moschito, trasmissione radiofonica di questa radio, e Camusso, questo è il problema dell'Italia. Ma Parenzo, non pagate voi per stare in trasmissione? Vabbè, abbiamo con noi, caro Parenzo, Parenzo, una persona che porta un nome molto, lo porta, diciamo, perché ne ha tutto il diritto di portarlo, perché è il suo vero nome, insomma, no? Che porta il cognome di una persona, di un politico molto molto conosciuto, una di quelle persone Cavour. Che stanno sempre in che c'entra Cavour adesso, una persona che stanno sempre in televisione, una di quelle persone sempre presenti nei talk show, eccetera, una donna. Ecco, c'è una persona che porta il nome di questa donna, in realtà gliel'ha quasi dato, diciamo così, anzi gliel'ha dato. Beh, l'hai capito già. È con noi Paolo Santanchè, buonasera. Buonasera. Come sta? Bene, grazie. Allora, Paolo Santanchè, caro Parenzo, è chirurgo plastico, anzi chirurgo plastico ricostruttivo, dico bene? No, io sono chirurgo plastico e mi sono dedicato per tutta la vita alla chirurgia estetica. Ah. La chirurgia ricostruttiva e l'altra branca della chirurgia plastica. Una volta l'ho vista da ospite, da hanno sbagliato sicuramente, io mi sono fidato della Bibbia lì di Vespa, a Porta a Porta, non so, chirurgo plastico ricostruttivo, hanno sbagliato tutto. Sì, perché la, il titolo è quello, però all'atto pratico, all'atto pratico io non mi sono mai occupato di chirurgia ricostruttiva. Sono due campi abbastanza diversi. Pur della stessa specializzazione. Va bene, va bene. Entrambi abbastanza complessi, per cui dedicarsi a tutte e due diventerebbe un po' troppo dispersivo. Senta, c'è Santacchè, ma insomma, è inutile ricordare agli ascoltatori, lei è l'ex marito di Daniela Santacchè. Le volevo subito chiedere una cosa, ma le dà un po' fastidio che lei continui a usare questo nome, che la signora Santacchè continui a usarlo? Ma allora, il fatto di continuare a portare il mio nome è stata una concessione che è stata fatta in sede di divorzio, in quanto all'epoca lei, nel mondo un po' del jet set, inizialmente la politica, era conosciuta in quanto era mia moglie e io sono un chirurgo modestamente abbastanza conosciuto. Sì. Poi facevamo delle feste che andavano su tutti i giornali in Sardegna, e quindi lei era conosciuta, cioè, scusi, come la moglie del chirurgo. Certo. Lei avrebbe avuto diciamo un danno dovendo cambiare cognome, perché nessuno la conosceva col suo cognome originale. E lei gli ha concesso questa cosa? Addirittura l'avete messo per iscritto? Sì, è una cosa legale. No, per carità, mica, cioè, assolutamente. Anche perché abbiamo un divorzio, abbiamo un annullamento, non ci fosse questo motivo, non ci sarebbe nessun altro motivo per portare questo nome. Certo, ma lei è contento di questa cosa, se ci pensa, no? Ogni tanto. Ma io tendenzialmente non ci penso. Ah, non ci pensa, Non ci pensa, cioè non è che dice no, insomma, un po' mi dà fastidio il fatto che... Non è uno dei miei problemi più assillanti. No. Le farebbe più piacere se si chiamasse, se avessi voluto lasciarle il nome non l'avrei fatto. No, certo, però poi le cose cambiano, no? Cioè, adesso lei è sempre presente in televisione, non è cambiato nulla, perché non ci frequentiamo dai tempi del divorzio e quindi non è cambiato nulla, non abbiamo alcun tipo di rapporto. No, d'accordo. No, ma non vi vedete mai proprio. Mai. Magari adesso, cambia nome, si chiamerà Sallusti, che ne sa? Cioè... E chi lo sa? Chi lo sa? Magari per lei è pure meglio, no? Se la cosa si risolve in questo modo, o no? Beh, è una roba un po' stravagante per una sostenitrice delle donne, non avere piacere di portare il suo cognome. Oh, no, ecco. Fa le sue scelte. Oh, ecco, questo è interessante. Lei dice è un po' stravagante quando uno dice sostiene il ruolo delle donne, però poi si chiama col cognome del primo marito. Io sono un amante della coerenza, che è una virtù in via di estinzione. Sì. E questa e cosa non è. Queste cose qui non riesco francamente a capirle. Molte persone ritengono che possa essere stato addirittura per lei un autogol quello. Sì. Di... questa scelta, però ognuno fa le sue scelte ognuno fa le sue scelte, non c'è dubbio, però lei dice con una piccola incoerenza il fatto che dice uno vuole mantenere quel nome lì, rispetto al fatto che uno dovrebbe invece l'autonomia delle donne, l'indipendenza, eccetera eccetera, no? Dovrebbe... Sì, questa è sempre stata una mia piccola curiosità, però non mi fa dormire la notte. No, vabbè, ma questo non è che ha mai pensato. Non è che ha mai pensato di dirle: vabbè, adesso basta. Torna a chiamare così, mettiamoci. Cioè, basta con questa roba qui, o no? Ogni tanto, quando la vede in televisione. Io sono un po' all'antica, sono ancora un uomo che ha una parola sola. Sì. Non ritorno sui miei passi. Una volta che ho detto una cosa è quella. Però un po' si è pentito su di quella cosa là. No. No, non si è mai pentito. Ma lei la voterebbe, la signora Santacchè? L'ha mai votata? Non mi sembra una domanda che si possa fare questa, no? Beh, come no? È il voto, non stiamo mica parlando di cose così, lo so, d'accordo, le cose segrete. Il voto per adesso è ancora segreto. Lo so, però, vabbè, insomma... si può dire, insomma, quello che uno vota, lo diciamo noi che facciamo i giornalisti, lo può dire pure un cittadino comune. Comunque, insomma, mica la voglio costringere con una pistola alla tempia, per carità. Senti, io però sono non è mai stata nella mia circoscrizione. Vabbè, ma la voterebbero? Secondo lei è in grado, per esempio, di guidare un partito come Forza Italia? Sicuramente io, il mio pensiero politico è in un'area di centrodestra, simile, molto analoga a quella, quindi centrodestra, quindi non Ma lei non ci ha trovato un po' una contraddizione nel fatto che, per esempio, la sua ex moglie una volta diceva Berlusconi vuole tutte le donne orizzontali, oggi insomma è considerata una pasdaran al fianco di Berlusconi, forse la fedelissima, una delle donne più ascoltate da Berlusconi? Ma io ho visto che in politica molto spesso politici cambiano opinione, cambiano amici, mi sembra un po' così, non è nelle mie corde, ecco, io sono un po' più coerente nelle cose, anche se è anche giusto quello che quando si dice che solo i cretini non cambiano idea. No, beh, certo. Ognuno ha diritto di cambiare idea. Però questa cosa certo, qua... io dovessi dire... preferisco un politico più coerente con le sue idee che uno che si dimostri di pensare oggi in un modo e domani in un altro. Cioè, se io do il mio voto a una persona, devo pensare che porterà avanti le idee per cui ho votato. Per cui quella roba lì è stata un po' una cosa totalmente incoerente, cioè aver detto Berlusconi vuole le donne solo così, le tratta in un certo modo e adesso diventa... Ma sarà poi vero? Mi sembra che siano anche due binari un po' separati, perché uno va sul discorso personale e l'altro va sul discorso politico. Come lei sa, sono due cose ormai... Può essere, da un punto di vista personale, una persona magari non... non particolarmente, diciamo, femminista, sì, tra virgolette, e poi essere magari un politico sopraffino. Vabbè, lei sa che le due cose... Due sfere abbastanza diverse. Vabbè, le due cose poi... Non mi sembra che Berlusconi abbia mai fatto in politica delle cose antifemministe. Vabbè, anche qui si può discutere. Le può aver fatte nel privato. Vabbè, ma questo lo diceva Daniela. Però sinceramente, professore, con grande sincerità, detto tra di noi, professor Santanchè, lei che la conosce bene, la signora Daniela, la signora Pitonessa, le affiderebbe tutta sincerità. La affiderebbe in tutta sincerità l'amministrazione di un condominio, ad esempio. Partiamo da lì, dalla base. Lei gliela affiderebbe alla signora Santanchè, l'amministrazione di... Guarda, ti do le chiavi di questo condominio, lo amministri tu, si fiderebbe o no? Allora, io non darei le chiavi, non affiderei, purtroppo non posso fare diversamente, ma non affiderei da amministrare nulla a nessun politico, non conosco un politico a cui affiderei qualunque cosa. No, ma in particolare a Daniela Santanchè, lei lo so che vuole essere diplomatico al massimo, noi facciamo io non sono diplomatico, io sto dicendo una cosa che è una tragica verità. Nemmeno a Daniela. Non conosco nessun politico che sia una persona affidabile. Ritengo che oggi noi andiamo male perché i politici fanno il loro interesse e non l'interesse del paese. E di tutte queste beghe, queste discussioni, tutte queste liti che hanno in pubblico, che sono tutte false e fatte ad uso degli elettori, perché poi questo è vero, sotto sono tutti pappa e ciccia, non mi danno assolutamente nessuna affidabilità. Senta, purtroppo oggi come oggi uno che va a fare politica non mi dà l'impressione di essere un paladino. Dunque non affiderebbe, diciamo, beh, insomma, lei secondo lei è in grado di guidare un partito come Forza Italia, perché si pensa al fatto che Berlusconi voglia affidare a Daniela Santanchè le chiavi della nuova Forza Italia, secondo lei è in grado oppure no? Ma non vedo perché no. Potrebbe essere in grado dunque di guidare Forza Italia, ce l'ha il piglio necessario, ce l'ha la grinta. Quello non è male. Sicuramente molto più di tanti altri. Senta una cosa, ma lei sicuramente non ce lo dirà perché sono cose private, eccetera. Però, insomma, io ho letto, perché poi uno si documenta, eccetera. Io mi ricordo che c'è tutta una leggenda su questa cosa qua. Ma è vero che lei, che voi vi siete conosciuti e lei era molto giovane, venne da lei per rifarsi il naso? È vero oppure no? Sì, è vero. È vero, ma... Io una volta chiesi a Daniela Santanchè, ci fu tutta una polemica quando dicevano è rifatta, non è rifatta, eccetera. Ma secondo lei, oltre al naso, cosa c'è di plastica lì? Mi scusi se uso questa espressione così cruda, lo so che voi... Non ne ho la più pallida idea, anche perché non frequentandola più, non so cosa possa aver fatto nel tempo, se ha fatto qualcosa, cioè... Cioè, con lei solo il naso? Sì, certo. Con lei solo il naso. Parenzo, che è successo? Sei caduto? Che hai fatto? No, beh, questa è una notizia, questa è un amore che è nato sotto i ferri, questa è una cosa interessante che ha confermato il professor Santanchè. Ma è vero che dopo le ha portato altra gente, altri clienti, perché era rimasta contenta, è vero anche questo? Ma grazie a Dio i clienti sono sempre arrivati da soli. No, perché lei si vanta molto, si è vantata anche in varie interviste di avere contribuito un sacco all'esplosione della sua fama come chirurga estetica. È vera questa cosa oppure lei, insomma, se ne vanta, ma in realtà poi... Ma a me sembra un po' che lei se ne vanti... Così? Senza. Cioè, i clienti... D'altronde lei si occupava poi di pubbliche relazioni e quello era una bella reclame. Grazie a Dio io... Cioè non ha avuto bisogno di lei per fare il chirurgo estetico e per avere i suoi clienti, insomma. Allora, io pur da giovane ero uno dei chirurghi più famosi dell'epoca. Sì. Perché già dal 1980 più o meno ero l'unico in Italia e uno degli unici tre nel mondo che facevano la liposuzione. Sì. Per cui ero conosciuto veramente quasi universalmente. La Daniela io l'ho conosciuta nell'83. Per cui insomma lei dice non aveva bisogno. Quindi io ero già piuttosto noto prima e poi col tempo chiaramente quando uno parte già bene diventa sempre più noto. Senta, se uno dovesse, è vero, lei ha detto non mi fido dei politici eccetera eccetera, ma tra due figure che ne so che sono molto in contrasto lì in quel partito, in quell'area politica, Alfano e la Santanchè, che sembrano così in contrasto, lei distinto a chi si affiderebbe? Ma come le ripeto, io non sono... Ma chi le ispira più fiducia? Della politica e non saprei cosa scegliere. Tenga conto che oggi non ci danno neanche più la possibilità di scegliere perché ci sono le liste. Una volta uno votava i nomi. Sì. No? Ecco, adesso in questo paese cosiddetto democratico, ma veramente poco democratico, uno vota una lista e deve beccarti chi c'è nella lista. Sì, no, ma questo è vero. Non è neanche il problema. Mi sembra. Però siccome ci sono due impostazioni molto diverse, no? Assolutamente insignificante. Insignificante. Cioè, allora tra la pitone, le piace come nome la pitonessa? Ma deriva da una vecchia barzelletta. Cioè? Se la faccio raccontare. No, vabbè, ho capito. Adesso lei non mi può mettere. Io non posso, non è una barzelletta che si può raccontare. No, si può raccontare, qui si può raccontare tutto. Qual è la storia della pitonessa? Scusi. Siamo ancora in fascia protetta. No, vabbè, la fascia protetta. No, non c'è fascia protetta. Per noi non esiste la fascia protetta. Scusi. No. Per me esiste. Ma allora, scusi, non è una cosa che cioè una cosa vecchia questa cosa della pitonessa? No, probabilmente è saltata fuori, ma era lei non si ricorda tanto le barzellette, questa è l'unica barzelletta che si ricordava e che raccontava sempre. C'è per cui probabilmente ha continuato a raccontarla anche in tempi più recenti e da lì è venuta fuori. Cioè è una barzelletta che raccontava lei? Sì. Ah, non Berlusconi, cioè l'unica barzelletta. No. L'unica barzelletta che racconta Daniela? Sì, è quella della pitonessa. È quella della pitonessa. Come la faccio raccontare, carina. No, vabbè, me la faccio raccontare. Ah, la sto guardando su internet, guarda, aspetta. Dai, dimmela un attimo. No, aspetta un attimo. Dai. Barzellette sporche sugli animali. Chirurgo Santanchè, devi raccontarla lui, ti prego. Ma non la vuole raccontare, non la vuole raccontare quella sulla pitonessa. Non la vuole raccontare sulla pitonessa. Com'è? Dai, dimmela. Dopo la pubblicità te la racconto. Ma no, ma che pubblicità? È 51, non è pubblicità, fra poco se ne deve andare, dottor Santanchè, mica c'ha tempo da perdere con noi, dai. Pitonessa nelle barzellette, aspetta un attimo. Vabbè, ho capito. Ma è quella là la barzelletta, dottore, è quella, professore? Sì, penso che ce ne siano molte. Un topolino? È questa qui, no? Sì, era un coniglietto. Ecco, un topolino. Com'è? Dai, raccontala, su. Allora, l'originale era un coniglietto. Un coniglietto. Vabbè, allora diciamo un coniglietto. Un coniglietto esce di galera dopo anni e anni e decide di andare subito a trovare una notte a casa chiusa e chiede della più famosa delle prostitute, la pitonessa. questo topolino, vabbè, la coniglietta, viene, il coniglietto viene accompagnato nella camera al buio, poi dopo si è abituato all'oscuro della camera, nota due grandi occhi gialli e subito dopo torna al buio, passa qualche decina di minuti e il coniglietto non si fa più vedere, per cui la proprietaria incomincia a preoccuparsi e corre verso la camera della pitonessa, apre la porta, accende la luce e trova la pitonessa tutta gonfia. Non è possibile. E che succede? Dai, non posso, te lo giuro. Dai, vai, vai. Tutta gonfia e satolla, con le buone e le cattive. Dai, su. Il topolino, il quale uscendo esclama: bestia, che bocchino. Beh, che, e che sarà mai? Pensavo che fosse una cosa tremenda. Cioè, pensavo che fosse peggio. Vabbè, dai, su, adesso poi la ripetiamo bene. Scusi, però, dottore, professore Santanchè, lei indirettamente ha dato della prostituta alla sua ex moglie. Scusi se chioso, se chioso in questo modo. Io solo lei mi ha chiesto come mai, da dove viene pitonessa, e io l'unico trédignon che ho trovato è con quella barzelletta. E ma quando la raccontava sta barzelletta? Quando stavate insieme, ovviamente. Eh sì, se no dopo non avrei potuto sapere. Che ne so, magari per un certo periodo vi siete ancora frequentati, che ne so. No, cioè... no. No, ma non vi sentite proprio mai. Io sono un chirurgo, taglio. Quando taglia. Cioè, Io quando taglio. Quando si scioglie, però, quando si scioglie diventa molto simpatico. All'inizio era un po' così, un po' legnoso, perché lo capisco, per carità, però diventa molto simpatico. Scusi, professore, ma le posso chiedere una cosa? Però a occhio, così, adesso lei dice: io ho rifatto solo il naso lì, a occhio, c'è dell'altro oppure no? Mi dica la verità, la signora Santanchè, perché lei nega sempre. Io ci credo anche al fatto quando lei nega, però a occhio, c'è qualcosina o no? Ma non saprei, come, è difficile da una foto che può vedere su internet. Le foto, le immagini, la televisione, a voglia. Cioè, per poter dire delle cose bisogna vedere da vicino, bisogna poter vedere i particolari. Ma voi avete l'occhio clinico su queste cose? Ma solo una cosa brutta, mal fatta, così si può vedere da lontano. Beh, quello è difficile. Certo. Il lavoro è fatto bene, è difficile. Cioè gli zigomi, che ne so, gli zigomi si vede qualche cosa, no? Comunque, vabbè. Ma chi lo sa, può darsi qualche punturina, non ho idea. Qualche punturina potrà darsi. Fatto sicuro, qualcuno le fanno tutti, quindi... Sì, certo. Scusi, però le posso far fare una previsione anche proprio da cattivi, proprio da persone, proprio noi siamo proprio delle cloache, siamo proprio delle persone brutte. Parlo per me, però delle persone proprio orrende, delle persone che vanno là a scavare nelle mie... Parla per te. Sì, vabbè. Ma secondo lei, signor Sallusti, durerà sì o no? Lo so che è una brutta domanda, che non è una domanda che non si dovrebbe fare, ma durerà sì o no? Secondo lei? Secondo lei io c'ho la sfera di cristallo? No, ma lei la conosce, no? Cioè, l'ha conosciuta tanti anni, allora, è stata con lei. Io ho conosciuto una persona. Sì. Poi le persone cambiano, soprattutto se quando conosci una persona è molto giovane. Ed è per questo che a un certo punto c'è stata una separazione, no? Sì, perché sì. Le persone cambiano, sì. Le strade si dividono. Per cui ormai sono passati talmente tanti anni, perché la nostra separazione è del 95, sono 18 anni. Sì, 18 anni, però sa 18 anni. E 18 anni si cambia molto, per cui io non so oggi che persona è. Faccio una previsione, durerà o non durerà? Poi men che meno conosco Sallusti, quindi... E non ha manco piacere di conoscerlo, secondo me. Così, non è che abbia questa... o no? Lo conosco talmente non lo conosco che non so dire se ho piacere di conoscerlo o meno. Mi sembra un giornalista famoso, quindi vabbè, questo non c'è dubbio. Senta, ma vengono molti politici a rifarsi anche da lei oppure no? Per fortuna no. Per fortuna. Però si dice, insomma, che queste cose, vabbè, d'altra parte non è che sono la chirurgia estetica. Perché i nostri politici le sembrano tanto belli e ben curati? No, cioè dire no. Vanno a fare la chirurgia estetica. No, dovrebbero mettersi più sotto i ferri. Forse ne avrebbero bisogno. Ne avrebbero bisogno. Vabbè, la lascio, professore. Grazie. Arrivederci. Saluti. Grazie, grazie. Oh. vogliamo sentire Renzi su Berlusconi? Renzi sulla questione di Berlusconi, basta giochini. Su questo devo dire la verità, Parenzo ha perfettamente ragione, cioè, non è che ci sono dubbi, cioè, no, è abbastanza certo, lineare. Okay, dimmi che c'è. Va bene, ma dico, fai sentire anche Pierluigi che oggi ha fatto veramente un bagno di, perché se no non diamo, ma il bagno di folla di Pierluigi Bersani. Dunque, è normale, ha portato pure un po' di clac, è normale, questo, no? Tra poco ti voglio dire, perché poi a me che me ne frega di quando uno dice il bagno di folla. Sì, c'era gente, ma c'era gente, è normale, ma ancora giornalistica che si usa bagno di folla. Voglio dirti questo, io no, però scusa, restiamo su questa cosa. Ma no, lo scoop della Cancelleri non è uno scoop quello che hai fatto, non è uno scoop. Hai fatto due domande ridicole. Intervista mai realizzata, mai. Sì. Ma tu dovevi vedere gli occhi con cui mi ha guardato. Appena io ho pronunciato la parola "siamo alla zanzara", ti ha guardato inorridita, inorridita. Ieri, però voglio rileggere. No, adesso la faccio sentire. Voglio rileggere. La barzelletta che tu hai letto malissimo, ridendo, non ridendo. La barzelletta che è all'origine abbiamo capito oggi della parola pitonessa. Abbiamo capito oggi dall'ex marito di Daniela Santanchè, Paolo Santanchè, che ci ha rivelato che lei ha sempre raccontato questa barzelletta, che era l'unica barzelletta che conosceva e che contiene il nome pitonessa. Non può essere un caso. Allora, la barzelletta è questa: in origine era un coniglio, non un topolino. Un coniglio esce di galera dopo anni e anni. Senti come la dico bene, eh? Un coniglio esce di scena, sì, esce di scena, esce di galera dopo anni e anni e decide di andare subito a trovare una nota a casa chiusa e chiede della più famosa delle puttane, la pitonessa. Il coniglio viene accompagnato nella camera al buio. Poi, dopo essersi abituato all'oscuro della camera, nota due grandi occhi e subito dopo torna il buio. Passa qualche decina di minuti e il topolino non si fa più vedere, per cui la proprietaria incomincia a preoccuparsi e corre verso la camera della pitonessa, apre la porta, accende la luce e trova la pitonessa tutta gonfia e satolla. Con le buone e le cattive le fa sputare il topolino, il quale, uscendo, esclama: "Bestia, che pompino!" Come una piccola... Bene, Renzi, allora. Tu sei come una piccola zanzara. Quando poi la sentenza arriva e passa in giudicato, è del tutto evidente che dire che la legge è uguale per tutti significa dire che non ci devono essere giochini né sulla decadenza né sul riconteggio, e che, con tutto il rispetto che si deve alle persone, la vicenda giudiziaria di Silvio Berlusconi è una vicenda conclusa e che quindi non c'è spazio alcuno per tentare dei giochini. Gianni da Roma, buonasera Gianni. Non c'è più. Intanto leggo che dalle motivazioni della sentenza della Cassazione sulla vicenda Cucchi, sì, questo beh sì, perché alla fine c'ha ragione Giovanardi quando dice che è morto per malnutrizione, cioè la colpa è dei medici che non l'hanno curato bene. Alla fine, devo dire la verità, c'ha ragione Giovanardi. Adesso, al di là delle frasi che ha pronunciato Giovanardi o no, però uno poi non è che le motivazioni o le sentenze valgono solo per Berlusconi, valgono anche per la vicenda Cucchi. Si non possono discutere fino all'infinito, ovviamente, ha... però su questo, sul punto, non sulle frasi che ha usato. Non ha ragione. Non sulle frasi, beh, in quanto Giovanardi non può avere ragione, scusa, sulle frasi che ha usato, no, ha ragione. No, sono così comunista io. Non ha ragione nel merito, non nella questione della sentenza. Lui su questa cosa qui ha ragione lui, Renato da Roma. Il punto è che lui ne ha fatto una questione politica. Vabbè, ma lasciamo perdere, sto dicendo, siccome ha detto, ha sostenuto che è morto per malnutrizione, alla fine la sentenza gli ha dato ragione. Su lui questo punto qua ha ragione crociata. Lui. Vabbè, ma lascia perdere la crociata. Ha deciso di fare questa cosa qua perché vuole sempre difendere le forze armate o comunque i militari. In questo caso. Questo è il punto. Renato da Roma. Anzi, no, Gianni. Datemi Gianni. Sì, pronto. Renato, arrivo, Gianni, dica. Pronto, buonasera. Vada. A proposito delle parolacce, premetto che non sono un moralista. Però dà un certo fastidio quelle parolacce, diciamo, gratuite. E vabbè, guardi, le parolacce sono le parolacce. Mi perdoni, lei mezz'ora fa ha detto "non mi importa un cazzo". Ecco, sì. Che c'entra quella parolaccia in quella frase? Le dà fastidio? Sì. E allora cambi canale, non ci rompe i coglioni, su. Mi scusi, ecco, Bravo, lei ha parlato di una radio pubblica. Ma la radio pubblica, quindi, la radio. Mantenere, lo deve mantenere. Senta, lei non me... un altro quello della buona creanza. Sì, guarda. D'accordo, io non sono educato. Me le dà fastidio questa cosa qua che io non sia educato? Tutte queste frasi che lei dice io. Sì. Lei conduce una trasmissione. Sì, conduco una trasmissione. Ma io sono padrone di quello che conduco. È un consiglio, si attenga al suo ruolo. Benissimo, il suo ruolo lo decide, non lo decide lei qual è il mio ruolo. Renato da Roma. Lo decide lei, no, sì. Lo decido io, sì. Lei, guardi, no, lo decido io, lo decide l'azienda in cui lavoro, capito? Se, non, se lei non si ficca bene in testa questa lei cosa qui. Lei è padrone della trasmissione della Rai, va bene? No, la Rai non c'entra proprio nulla, manco sa dove trasmettiamo. Dove trasmettiamo, si figuri. Che radio è questa qua, scusi Gianni? Radio 24. Sì, su che cosa? Su che, di chi è il proprietario, chi è? Radio 24 non è la Rai, sì. Non è la Rai, mi raccomando, bravo. Renato da Roma, no, precisiamo. Renato da Roma. Pronto, pronto. Sì. Buonasera. Buonasera a tutti, semplicemente per dire questo al Presidente della Repubblica Napolitano, faccia l'amnistia e così tanti cittadini ingiustamente condannati. Io sono contrario all'amnistia. Beneficiarne e l'Italia non subisca la vergogna delle continue condanne da parte della Corte Europea. Si costruissero le carceri, si rimodernassero le carceri. No, io sono contro l'amnistia. Si togliessero un po' di reati, si togliessero un po' di reati. Un'immagine enorme, una vergogna perpetua. Vabbè, io sono contro l'amnistia, non è che se uno è contro l'amnistia è un criminale, Renato, cioè. Ma poi questi qua che fanno i proclami, buonasera, e chiudono, ma che è? Cioè, Marcello... Io ti dico questo, dimmi. Che interesserà forse a pochi, ma in realtà è una notizia veramente... Il forum Ambrosetti... Che ma no, ma basta il forum Ambrosetti, alla Zanzara, no, Luigi da Roma, io non voglio sentire queste parole, Luigi da Roma, dai, su... No, ma non hai capito, hanno invitato Casaleggio, si hanno invitato Casaleggio, vabbè, pazienza. Ma non devi dire così, cioè il forum Ambrosetti invitava capi di Stato, uomini... Hanno invitato Casaleggio, sì, per fare notizie, è uno dei leader... È uno dei leader della seconda formazione politica... Come Liro Chesi, il forum Ambrosetti dovrebbe sapere che il signor Casaleggio, quello che ha parlato Grillo, perché bisogna vivere come i Liro Chesi? Non ho capito. Però che è normale, non devi fare un cazzo, nulla, energia zero, costo zero, tutto lei, norma da casa. Niente water, defecare nel giardino. Ma come? Normale, Germania lo fa ovunque nel nord del paese civile è così, in Germania lo fanno. L'urina la devi bere e non serve il frigo, la bevi, non serve comprare l'acqua, non sprechi energie. E referendum di privatizzare l'acqua come volete fare voi della Confindustria. E invece tu bevi un po' d'acqua, fai l'urina, la rimetti e la ribevi. Vabbè, e la ribevi ancora, diventa sempre più gialla, in Germania lo fanno. Vabbè. E ogni volta che tu la espiri è sempre più gialla, sempre più intensa e sempre più ricca di vitamine. Ogni volta, la stessa, 10 volte la puoi bere. Mia moglie se n'è andata, non le poteva più avere il frigo pieno di urina. È andata, non capisco perché, se n'è andata. Ma in Germania lo fanno. Mauro da Roma, non c'è Luigi da Roma. Luigi da Roma. Buonasera. Dica. Senta, allora, innanzitutto volevo farle complimenti per la trasmissione. Non c'è bisogno, vada avanti. Senta, no, a proposito di quelle cose che ha detto D'Alema, non su Renzi. Ma sono vecchie. Sono vecchie. No, queste qui che durante la trasmissione ha detto, insomma, che questo litiga con tutti, che con la Fioroni, con l'Albindi, eccetera. Cioè, questa qui praticamente D'Alema è uno degli esponenti proprio più eccelsi del consociativismo, no? Una delle peggiori sciagure che l'Italia ha subito e che subisce tuttora. Quindi magari ci fossero delle persone, diciamo, che litigano un pochettino con questo, con quell'altro, ma che avessero delle idee chiare. Io quello che temo è che a poco anche Renzi si allineerà e diventerà speriamo di no. E tanto sapete bene che Cruciani, quando gli si dice qualcosa che non gli piace, piglia d'Italia. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, hey, hey. Allora sta per iniziare il momento hot, il momento più hot della Zanzara, caro Parenzo, perché qui ovviamente ci arrivano. Già è la diretta. No, ma chi se ne frega, tu la diretta inizia alle 9, non ci rompere i coglioni. Alle 8:45. No, alle 8:45, quello che se ne sono le 8:10, ma che vuoi? Aspetta, però ti dovrebbe dire male perché mi sposto verso il 7. Vabbè, ma spostati dove ti pare, basta che non ci scassi la minchia. Aspetta un attimo che ti dico una cosa, qual è la barzelletta che mi è arrivata adesso. A me mi arrivano tutte queste barzellette, ma ripeto, non abbiamo inventata noi questa storia. L'ha inventata, non ce la voleva dire lui direttamente, l'ex marito di Daniela Santanchè. Allora, non è la barzelletta No, vabbè, ha raccontato che la Santanchè raccontava sempre a sua volta questa barzelletta e dunque l'origine del cognome Pitonessa è in questa roba qui. Allora, c'è il coniglio che va al bordello e dice alla maîtresse, stai attento, c'è il coniglio che va al bordello e dice non le so dire le barzellette purtroppo, ci vorrebbe un raccontatore di barzellette, chiamate, c'è un raccontatore di barzellette. C'è il coniglio che va al bordello e dice alla maîtresse, una barzelletta molto famosa pare, ma io a me le barzellette non mi sono mai piaciute. C'è il coniglio che va al bordello e dice alla maîtresse, una vecchia vacca, ma vacca nel senso che non nel senso di puttana, nel senso di animale del termine. C'è il coniglio che va al bordello e dice alla maîtresse, una vecchia vacca, senti, sono stanco delle solite conigliette, tre colpi e via, stasera voglio provare qualcosa di più eccitante. La vacca gli risponde che se vuole divertirsi davvero, di sopra c'è la pitonessa, la puttana più famosa di tutto il regno animale, e dondolandogli una chiave davanti al muso aggiunge stanza 201. Il coniglio, tutto eccitato, strappa la chiave di mano alla vacca, sale le scale di corsa, entra nella stanza della pitonessa e chiude la porta. La pitonessa, convinta che sia arrivata la cena, piomba sul coniglio e lo ingoia. Passa un'ora, passano due, dopo tre ore la vacca, preoccupata perché il coniglio ancora non torna, decide di salire a controllare. Apre la porta e la trova. E trova chi? Trova la pitonessa tutta sola. Sempre più preoccupata, domanda che fine abbia fatto il coniglio. La pitonessa, imbarazzatissima per l'errore, vomita il cliente. Appena uscito dallo stomaco della pitonessa, il coniglio si asciuga la pelliccia e fa tutto contento: bestia che pompino. Luciana da Genova, Luciana, dica. Salve, come sta Cruciani? Tanto per cominciare, visto che non glielo chiede nessuno, glielo chiedo io. Sto come bene, va? Sto bene, sto bene. Come ha passato le vacanze? Dove è stato? Ma si faccia gli affari suoi, scusi. Dai, ecco, così mi piace. Abbia pazienza, Luciana. Ah, finalmente il mio Cruciani. Guardi Cruciani, gli ho telefonato per dirle che ha cominciato la Zanzara in maniera un po' piatta. Senta, cioè è un po' monotona. Io la voglio vivo, abbia la voglio pazienza. Con le parolacce, ma io sono la vivissimo. Voglio pieno di contraddizioni. Mi ha fatto rimpiangere persino Parenzo Parenzo, che l'ho ascoltata. Ma Parenzo, ma che quali giorni? Ieri abbiamo iniziato questi giorni, ieri, appunto, ma stia calma, stia tranquilla. No, la voglio vivo. Ma io sono vivissimo. Nel contrasto che c'è la vita. Se no è come tutte le altre trasmissioni. Mandi a fanculo. Dica le parolacce, insomma, sia Cruciani, ok? Ma ancora di più. Che vuoi, Parenzo? Hai sentito questa signora? No, ma dico ancora di più, mandare a far culo ancora di più. Sì. Quelli che se lo meritano soprattutto. Dai ragazzi, siete forti, andate bene così, se no diventate come tutti gli altri. E allora che facciamo? Brava. Mario da Reggio Calabria, Mario. Ciao compagno, io sono sempre il compagno che io lavoro e tu mangi. Ogni tanto vi telefono e vi rompo le palle. Niente, io volevo solo spezzare una lancia a favore di Parenzo. Questo perché? Perché credo che voi stiate utilizzando e creando un target dove la gente telefona tanto per moda per parlare male di Parenzo. Invece io ho avuto Ma non modo... è vero, ma qual è questo format, no, dice, per parlare male modo. Di Parenzo? Potrebbe essere un format, di la tua contro Parenzo. No, ci marciate un po', su, è chiaro, e fa parte anche per creare dell'audience, anche se non ne avete bisogno, però è chiaro che ogni tanto per coprire dei vuoti di trasmissione lo utilizzate questo discorso. Però io ho modo un gran format questo, però, un format geniale. Di una parolaccia a Parenzo, vuoi insultare Parenzo? No, di la tua, ci vorrebbe una segreteria telefonica, vuoi insultare Parenzo? Ecco qua. Io invece voglio dare il mio contributo, perché io ho avuto modo di parlare col signor Parenzo quando è stato sciolto il comune di Reggio Calabria. Il signor Parenzo era di fronte al palazzo, diciamo, San Giorgio di Reggio Calabria per condurre una, diciamo, come posso dire, un collegamento con una trasmissione di La Sette. Io ho avuto modo, mi sono presentato, gli ho detto che volevo partecipare per essere ripreso per dire la mia. È stata una persona molto educatissima. A parte che molto educatissima, certo, molto educatissima. Allora, vabbè, io sono anche emozionato. e quando vabbè, io è una persona educata, ma lo conosciamo noi come persona educata, però non ce ne può fregare sì, di meno adesso, cioè, ho non... capito, ma siccome la gente tipo lo critica, la gente diciamo lo accusa, credo che sia più, come posso dire, un modo tipo di costume, ma in realtà tipo vabbè, tutti parlano male, invece io voglio Mario, a noi le persone che fanno i complimenti, persona, le persone che fanno i complimenti buoni non ci piacciono, traffico. Ma guardi, io non sono una persona a cui piace la piaggeria, anche perché io sono vabbè, ma a noi non ci piacciono i complimenti, le cose, le sdolcinate, non ce ne frega niente. Dai, ma Parenzo, Topolino, Parenzo, siamo seri. Guarda che non vorrei ingoiarla di un sol boccone. Oggi è impazzito Alain Delon, in una dichiarazione, in un'intervista, non so dove, ha detto che i gay sono contro natura. I gay sono contro natura. Alla Putin, o più prosaicamente, più italianamente, alla Taormina. È uno schifo, è uno schifo, un autentico schifo. Beh, vabbè, insomma, io sa, per proce e lesbiche sono sempre stato di una certa opinione, per cui... Ma io sarò bagato in testa, andato a dire se è bagato in testa che è bagato in culo, scusi, tanto per parlarci chiaro. Ma fanno schifo. Se gli piace, gli piace, io devo, che devo fare? Purtroppo io... La penso diversamente. No, d'accordo, ma mi rispetto, per carità. Però quando stanno divisi, quando stanno in compagnia. Ma che succede? Se si avvicinano a lei, beh, a me fanno schifo. Se... E che cos'è? Che è un bel ambiente. Ambiente di maiali. Un ambiente di maiali. Ma no, ma guarda che più uno lo va veramente è... Io ieri non mi ero reso conto, ma era raccapricciante alle volte. Il professor Taormina. Ma poi il gay come... village, un ambiente di maiali. Sai che forse c'è Bersani qua, fermati un attimo. Ma no, ma non riesce a beccare, sì, Bersani. Stai calmo. Fatti raccontare lo scherzo a Zanonato là. Fatti raccontare quella cosa di Zanonato. Aspetta, della Zanzara. Salve, buonasera, sono Parenzo della Zanzara di 24. Mi dicono che dovrebbe arrivare qui a mangiare anche il signor Bersani. È già laggiù che sta mangiando. A quale tavolo? In fondo, sono i tavoloni grossi. Ah, vabbè, allora disturbarlo, grazie. Francesco da Bergamo. Vai amico al tavolo. Amico mio. Permesso. Francesco. Io, mi siete mancati. Non dovete più andare in vacanza. Che dobbiamo? No, anche noi dobbiamo andare in vacanza, abbia pazienza. La Zanzara è come una droga. Vabbè, allora? Quando non c'è ti manca. Volevo rispondere a quel politico che ha dato a Parenzo circa un'ora e mezza fa, no? Che mi ha detto che Parenzo è un depresso perché guarda i porno. Secondo me il depresso è lui, perché io mi guardo i porno tutte le mattine, tutte la sera e vivo benissimo. Cioè, scusi, lei guarda film porno mattina e sera? Sì, un quarto d'ora la mattina mentre che fare il caffè a mia moglie, un quarto d'ora la sera prima che lei viene. Vabbè, ma lei è un pazzo scatenato, cioè lei la mattina si alza e mentre prepara il caffè a sua moglie, sì, perché lei ogni mattina prepara il caffè a sua moglie, giusto? Esatto, perché mi sveglio molto presto. Si sveglia presto, prima di sua moglie, e poi prepara il caffè per sua moglie. E così, tra una tazzina di caffè, una fetta di biscotto, no, un biscottino... La mattina non mangio io. Mentre preparo proprio il caffè, mentre prepara il caffè, che fa? Do da mangiare ai gatti, sì, la metto su un 5 minuti di sketch sul DVD e via con YouPorn. Butto un occhio e via con YouPorn, o no? E vai. Ma DVD o YouPorn? No, DVD. No, perché YouPorn e il Viagra hanno rovinato il porno. In che senso, scusi? Ma lei che gli frega, sa? Ma lei che gli frega se hanno rovinato il porno? Scusi, ma che gliene frega? Di una volta, come Rocco Siffredi e Di Malone e tutto quanto. E YouPorn purtroppo ha messo in crisi il mercato. Questo non c'è dubbio. Però lì siamo. Cioè, lei invece di andare su YouPorn mette un DVD. Parenzo, anche tu fai così, no? Davide? Adesso qui scatta. tutta la colpa, ti pare? Io non ho mai, praticamente queste cose qui le vedevo quando ero al liceo, in quarto al ginnasio, questi maiali, questi sì sono un po' di maniaci che chiamano, che dicono come si scaricano i filmini, i DVD, poi vedono la scena hard e mettono la pausa, capite? Poi riprendono. Ma questi sono dei maniaci. Ma perché maniaci? Non ho capito. Francesco, lei si sente un maniaco? Eccolo qua. Eccolo qua, come stai? No, ti passo, è Marco Paciotti del Ma chi se ne frega? Come chi se ne frega? Ma, un attimo, ma no, ma chi è? Vieni qua. Aspetta, la sanzana. Chi è? È stato responsabile no, dimmi che è in diretta, perché mi ha invitato, è un dirigente del Partito Democratico, che è stato mio. Adesso lo dice lui chi è. Ah, signor Paciotti, chi è lei? Scusi se Parenzo la importuna, ma sa, noi siamo fatti così. È così da una vita, Parenzo. È così. Non ho il piacere di conoscerla. Lei che ruolo ha all'interno del Partito Democratico? È semplicemente un militante, un dirigente, cos'è? Sono un militante, coordino il forum dell'immigrazione. Ah, ho capito, il forum dell'immigrazione. Allora, perché se n'è andato adesso Parenzo? Perché le ha dato il telefono in mano? Non ho capito. Ma sta mettendo qualcosa all'orecchio, insomma. Ah, sta facendo gli affari suoi. Vabbè, la ringrazio. Sì, sta facendo gli affari suoi. Sta facendo gli affari suoi, come so. Pensavo fosse andato in bagno, non lo so. Ma sta cercando Bersani, ma c'è da quelle parti Bersani o no? Io non lo vedo Bersani. Non lo vede. Ah, dunque, non sta cercando Bersani. L'altra notizia è questa. Noi pensavamo che lui stesse cercando. Sta facendo gli affari suoi, lo conosciamo, parente. Sì, ma sta facendo gli affari suoi. Intanto starà o in bagno, oppure sta mettendo a posto la telecamera per il collegamento, eccetera. Ma lei guarda film porno? Perché è vicino, quindi in bagno in due sarebbe divoca come cosa. No, sta in bagno, non è in bagno a farsi gli affari suoi, sta facendo altre cose. Signor Paciotti, lei guarda film porno? Io assolutamente no. Ma non è mica un delitto, scusi, cioè, non è un delitto, cioè lei non ha l'usanza di guardare film porno? No. No, va benissimo, solo questo, siccome c'è un dibattito in corso perché è intervenuto un ascoltatore, volevo sapere da lei, che è uno responsabile del forum immigrazione del Partito Democratico, se guardava film porno. Lei no. Fantascienza, semmai. Fantascienza, bravo, bravo. Grazie, signor Paciotti, grazie, grazie. Allora, sì, Davide, che c'è? Ma ti pare che chiedi a un dirigente, salve, sì. Questa è la Zanzara, amico mio, Radio 24, Radio 24. Lei è un votante, lei è un militante del Partito Democratico, giusto? Grazie. Quindi lei è un grande sostenitore di Cuperlo, immagino. Cuperlo. Quindi Renzi a lei non piace. Mi piace, no. No, lei non piace Renzi. Non è che non piace Renzi. Sì, perché lei lo reputa un berlusconino, questo che ha detto lei prima, vero? Esatto. Ecco qua, io lo so bene perché io la leggo in faccia. Ti leggo sulla Zanzara. Bene, no, non mi può vedere, che sei radio, amico mio. Sono media diversi. Giusto, questo anche per televisione. Televisione sempre, ma questa qui è la radio. Quale trasmissione? Adesso siamo alla sette. No, adesso siamo alla radio, amico mio. La radio. Vabbè, ha detto che considera... Vabbè, lascia perdere, Parenzo. Vittorio Sgarbi, Vittorio? Eccolo. Eccoci qui, dove sei? Sono a Trieste, dove ho presentato il nome del figlio con il vescovo. Ancora con questo nome del figlio? Quante presentazioni hai fatto? Va bene il libro, tra l'altro, ha avuto un grande riscontro. Soprattutto dopo la puntata con Terese alla 7. Ah, in onda. Insulta un po' Parenzo, va, che non senti da un po' di tempo. No, ho un affetto indicibile per Parenzo, anche perché ti posso raccontare un episodio che connota la sua esistenza e la mia. Sì, cioè qua. Mi hanno invitato alla ultima o la penultima puntata di Parenzo. Di no, di che? Di Parenzo, quella che faceva la Rai. Alla Rai, e sì. E poi inopinatamente mi hanno ritirato l'invito. Cioè, pensa, la loro libertà e la loro visione democratica è tale per cui io, che in qualunque trasmissione comunque tengo alti gli ascolti, non ero ritenuto adeguato a essere ospite dopo essere stato invitato. Sarebbe da chiarire questo mistero che prova. Parenzo, vuoi chiarire questo mistero? Democratico, ma non è, voglio molto bene a Vittorio, ma non è mai successo, non abbiamo mai chiamato. Ma come no? Ha ricevuto un invito, come no? Non mentire, no, perché ho il messaggio sul mio telefono, ho il messaggio, non ti permetto di mentire. La tua produzione mi ha invitato e poi mi hanno ricevuto l'invito perché avete cambiato non so quale tema, tanto qualunque tema poteva essere affrontato dalla la penultima o l'ultima puntata e io non dico altro che cose vere. Ci sono i tuoi autori. Vabbè, e che è successo poi, Parenzo? Non ho capito. Che vai bene per tutto. L'evidenza. Dice chi c'è? Vittorio Sgarbi, di che cosa parla di tutto? Omnia. Ma perché? No, ma non sei onnisciente, parla di arte o di Caselli o di giustizia. Io posso parlare di arte tranquillamente. ma non volevo polemizzare con nessuno, altro che ricordare un episodio increscioso della condotta poco rispettosa delle persone invitate da parte di te e dei tuoi. Ma una decina di scuse che non invitare di più. Ma c'è anche un messaggio di scuse, Davide, dai, sì, su, renditene conto. Ma va, di scuse per che cosa? Può capitare, l'abbiamo chiamato il tema, dice, va bene, richiamalo, digli che stia a casa, vado a trovare una trasmissione dove andare, no? Cioè, non è che... Ma sei pure sprezzante, ma di qualcosa, Vittorio, è pure sprezzante. No, non niente, perché tanto il suo destino è segnato, no? Tant'è vero che quel programma è finito come doveva finire, giustamente, no? Avendo avuto questa arroganza insopportabile che prova la sua totale assenza di... Tant'è vero che le sue trasmissioni, quando lavorava pagato a Tele Lombardia, sì, erano una continua richiesta di mie presenze gratis, sì, con il famoso episodio della cena che non ho voluto pagare, pagato a metà. Famoso episodio. Diciamo, questo è sempre rimasto lì, non si è mosso da quel punto. Senti, comunque, ma... detto questo, che me ne frega di Parenzo, sono fatti i voti. Ma lo sai che abbiamo testé, abbiamo saputo dov'è l'origine del nome Pitonessa della Santanchè. In realtà l'origine del nome Santanchè ce l'ha detto l'ex marito della Santanchè, Paolo Santanchè, il quale ha detto che arriva dalla una barzelletta che la Santanchè raccontava sempre, che era quella famosa del coniglio, manco la conoscevo, del coniglio e della pitonessa. Dice che la barzelletta del coniglio e della pitonessa è una barzelletta che la Santanchè raccontava sempre, sempre, l'unica barzelletta che conosceva e che raccontava continuamente. Dunque non può essere casuale la cosa, no? La pitonessa nasce da quella barzelletta, solo che in quella barzelletta la pitonessa era una prostituta, cioè, te la ricordi tu la barzelletta della pitonessa? No, non me la ricordo, ma avevo letto la definizione per la prima volta forse sul foglio, che sì, sul foglio, sul foglio, sì, sul foglio, che risalivano a questa, ma dice che Berlusconi gliel'aveva dato, tra l'altro. Pure Berlusconi, insomma, sì, sì, ma insomma, tanto Parenzo, ma tu lo sai che Sgarbi in qualche modo difende il professore di Saluzzo, quello che ha, diciamo, tra virgolette, corrotto, adescato le sue studentesse, Parenzo, lo sai? Ma o no? Non ho dubbi, adesso citerà sicuramente Pasolini, il caso Braibanti, citerà Verdiglio, citerà chiunque, citerà adesso per spiegare che è innocente, che devi fare, va bene? Dirà ignoranti, capre, Pasolini, Moravia, Moravia, Pasolini, Pasolini, e poi dice, vabbè, però sì, un'altra storia. Per fortuna che lo fa fare. In realtà la storia è esattamente quella, la storia è quella di un uomo straordinario, di cui non sa nulla Parenzo, che si chiama Braibanti, che è stato condannato a 9 anni perché due maggiorenni, tra l'altro, maggiorenni, erano stati con lui con rapporti omosessuali che oggi tutti riconosciamo come perfettamente leciti, perfettamente, perfino il 17enne che ha scritto Repubblica rivendicandoli, ma allora, se non fossero intervenuti Pasolini, Moravia e i radicali, avrebbe dovuto passare 9 anni di carcere perché c'era il plagio intellettuale, che è esattamente la fattispecie che si riproduce oggi, nonostante questo esempio chiaro di invasione della vita privata delle persone da parte dei magistrati, nel caso del professore di Saluzzo. Io, decine di docenti hanno avuto delle studentesse innamorate secondo uno schema che è molto logico. Ma anche tu l'hai avuto? Anche tu? Anche io a te? Certamente l'ho avuto, ho insegnato dappertutto, per cui il dato di fondo è, cioè, che voglio dire, tu hai avuto rapporti con tue studentesse anche minorenni? Sì, esattamente. Però no, minorenni non credo, perché io, come no, sì o no, perché qui no, è il discrimine, credo, il discrimine è questo. Parlo dell'epoca in cui insegnavo all'università Udine, quindi il dato è legato ai 18 anni, non ai 17, ma non cambia niente, perché una donna di 17 anni è matura come a 18. Il problema di fondo è che dovrebbe astenersi il professore, perché c'è una ragione che si debba astenere da un rapporto in cui la ragazza sente un'attrazione che lui condivide. Non vedo perché la magistratura deve intervenire su una materia che è del tutto estranea, visto che non c'è prostituzione minorile, non c'è niente. Quale sarebbe la ragione per essere arrestato? Pare che ci sia anche un suicidio, si sta indagando su questo. Il suicidio non riguarda le vicende amorose, è un'altra cosa che i carabinieri hanno smentito, quindi la solita azione omofobica e sessuofobica contemporaneamente dei magistrati che intervengono. Cioè, per te è legittimo il fatto che un professore abbia rapporti anche sessuali con minorenni della sua classe o della sua scuola? È assolutamente normale, è sempre successo. È assolutamente normale ed è a discrezione della volontà dell'insegnante di non essere coinvolto. Cioè, un insegnante pigro decide di non lasciarsi prendere. Un insegnante innamorato ci può essere, non mi pare così strano, sono fatti che non ci riguardano. D'altra parte, il caso di Pasolini è esattamente questo, perché Pasolini ha una fattispecie di reato che non si ricorderà il nostro Parenzo, che è studenti suoi, rapporti omosessuali nel 1949. Perché è stato assolto? Perché il fatto non costituisce reato e non c'era querela di parte. Allora, ha fatto benissimo a farlo, però è stato cacciato dal PC. Un attimo solo, un attimo solo, che invece identica, sì, prevedeva che Berlusconi fosse cacciato dal PDL, non condannato. Un attimo solo, sì, no, ho capito. Adesso andiamo su Berlusconi. Non me moleste moschito. Non me moleste moschito. Non me moleste moschito. Why don't you go? Sei ancora a casa, mo. Non me moleste moschito. Poi abbiamo l'incredibile discussione che c'è all'interno del Movimento 5 Stelle, con per esempio il senatore Campanella che dice: Grillo non mi risponde. Sentiamo Campanella. Non è semplicissimo riuscire a contattarlo, perché ho provato più volte a mandare delle mail o a telefonare o a mandare degli sms e la risposta non torna, cioè nel senso che non mi risponde. Mi rendete conto, no? Un senatore che cerca di parlare con il capo politico e dice: non mi risponde alla mail. Il senatore che non mi risponde alla mail, non mi risponde al telefono. Non è semplice parlare con Grillo. E un altro che sembra in procinto di uscire perché dice che ci si potrebbe alleare col Partito Democratico, che si chiama Orellana, Luis Orellana, che dice: sono per il dialogo. Queste frasi inutili, Orellana. Io sono per il dialogo, come eravamo per il dialogo ad aprile scorso, in cui siamo andati a parlare con qualcuno di noi, Vito e la Roberta Lombardi, altri erano presenti alla diretta streaming, c'è stato un dialogo che è stato infruttuoso. Se quello era dialogo, quella diretta streaming con Bersani, allora il dialogo qual è? Che è successo? Allora, io non riesco a capire una cosa, adesso Parenzo si ricollega perché è caduto, cosa c'è che non fila nel discorso di Sgarbi? Perché in realtà oggi su Washington Post c'è più o meno la stessa polemica, perché c'è un editoriale in cui si dice che i rapporti tra professori e alunne o alunni minorenni dovrebbe essere decriminalizzato. Si parte da un caso vecchio in cui uno ha preso 15 anni perché una ragazza si è suicidata, eccetera eccetera. Dunque non è un discorso così peregrino, cioè lo scrive in un editoriale Washington Post. Parenzo, c'è o non c'è? No, non c'è. Vittorio, io non ho capito tu che cosa dici. Tu dici che l'arresto di questo professore per aver fatto sesso con due minorenni è una roba che i magistrati potevano evitare o no? No, dovevano evitare, e che d'altra parte avrebbero dovuto perseguire in analoghe situazioni che ti racconto, che vanno oltre quelle che ho sopra citato. Sai a quanti anni sposò il professor Giovanni Leone, poi Presidente della Repubblica, sua moglie Vittoria? Che ne so, no, dimmi. A 17 anni. Era evidentemente un caso analogo di una ragazza studentessa a fronte di un professore, che poi è diventato... E sai a quanti anni incontrò e poi sposò sua moglie il grande pittore Balthus? Che ne so, non lo so. Vescovo aveva 15 anni. Allora, o noi vogliamo entrare nel merito di tutte le storie che riguardano personaggi che hanno fatto cose importanti... Beh, okay, però bisogna cambiare la legge, però, o no? No, ma non c'è la legge, perché l'unica legge che è stata introdotta in maniera, come sempre, idiota da Berlusconi è prostituzione minorile, ma i rapporti con le minorenni e il matrimonio con le minorenni sono leciti. Sì, oltre i 16 anni però, oltre i 16 anni. Però se una non è prostituta o non vuole esserlo, non la puoi inchiodare su quel ruolo. Sopra i 16, credo, sopra i 16. No, sopra i 14. I 14, scusa. I 14. Però se vuoi avere un'interpretazione autentica di questa materia, l'hai avuta, non so se da te o da qualche altra parte, da Busi. Il quale Busi... Da Busi, come no? Da Busi. Qui su Radio TV. Punto d'accordo con Berlusconi, che nel caso Oggettine, chiamare troie ragazze non costrette, ma desiderose di avere successo, consenso, danaro, è un arbitrio, perché la troia è una sfruttata per necessità da qualcuno che prende vantaggio da quello che lei fa. Una che va lì spontaneamente per avere posti in televisione, in Parlamento, vantaggi, danari, appartamenti, è una donna interessata e non può essere duplicata come troia. Qui manca allora, nella difesa di Berlusconi, sì, e degli altri, una donna tipo la Venerina De Pace che dica: lei prostituta, lo dice a sua sorella, perché una donna che dà la parte sua che vuole non è prostituta, è come un uomo che decide di fare una cosa che gli piace, non vedo la differenza. O vogliamo l'uguaglianza tra uomini e donne, ma se tu scoppi a 17 anni con una donna che ti piace, sei un uomo libero. Una donna che lo fa è schiava di che cosa? O è prostituta di che? Se non una visione penalizzante la donna. Aspetta un attimo, che questo pazzo di Parenzo si è collegato con In Onda. Diretta, io senti, vi chiederò la linea, interromperemo la cena di Bersani. Benissimo, ecco, David, ti voglio chiedere... Lo vedete? Sì, sì, lo vediamo da lontano. La cena di Bersani, ma chi se ne frega della cena di Bersani? Diciamo molto fuori dalla norma. Dove con Michele Serra, ecco, vediamo la barba di Cofferati, con Cofferati e la pelata, sì, di Bersani. E a fianco, ti volevo e chiedere solo Bersani, una cosa: se tu, sì, mentre siamo collegati con il professor Rodotà, fai anche un, sì, sondaggio fra i militanti di quello stand che ci interessano molto e facciamo le nostre presidenziali, cioè di rivotare per il presidente se a loro andava bene Rodotà. Ci fermiamo un secondo per la pubblicità e torniamo subito con l'intervista a Rodotà. Buonasera, fra poco. Allora, voglio sapere da Sgarbi se la soluzione per Berlusconi è quella della grazia oppure no, di chiedere la grazia. Così. No, no, non avrà la grazia, è inutile che la chieda e dovrà patire comunque quest'onta l'essere chiamato delinquente. Ha l'unica possibilità di riscatto in ordine alle cose che diciamo, che per il reato di prostituzione minorile ci sia un tribunale che lo assolve, quindi faccia intendere come l'azione sia stata condotta in maniera arbitraria per ragioni che sono quelle per cui Ruby non diventa una donna libera che fa quello che le pare, ma una prostituta che è stata... Cioè, sfruttata. Secondo te, se fosse assolto nella vicenda di Ruby? Sarebbe un riscatto che in qualche modo sarebbe utile, vabbè, come contrappasso. Seconda cosa, l'altro reato, gli altri mi sembrano di minore peso, quello della compravendita di parlamentari, studiare come si può fare sulle carte che De Gregorio era già andato a destra, sì, non perché comprato, ma perché aveva ottenuto i voti dei deputati di centrodestra per diventare presidente della Commissione Difesa. Con questo, spostandosi di campo, era diventato un'area o un partito o un partitino alleato a Berlusconi che pagava, sì, lui come Rotondi, come la Mussolini, come però una delle nove componenti del PDL. Scusami un attimo, ma perché allora questi avvocati insistono con il ricorso alla Corte Europea, alla grazia, alla queste robe qui? Beh, su questo caso perché stanno limitati alla sentenza già data. Io credo che sarebbe bene proiettarsi nel futuro per evitare altre condanne e far intendere che quella è stata una condanna che si può discutere ma che comunque non si può cambiare. Queste altre devono invece provare che lui è stato vittima di un'azione che ha attribuito a lui quello che dovrebbe essere attribuito. Io in televisione ho portato 10 nomi di persone che sono state con Ruby, nessuno si è preoccupato di andarle a cercare. Quando tu vedi sulla Salaria le ragazzine che salgono sulle macchine dei clienti, nessuno prende la targa per portarli. L'obbligatorietà dell'azione penale è uguaglianza dei cittadini rispetto ma ai qui non esiste, ma non esiste questa obbligatorietà dell'azione penale. I magistrati fanno il cazzo che vogliono. Allora, dai, esattamente per quello che lui può pretendere di essere assolto sulla base di un reato che sembra soltanto suo. Ma scusate, Vittorio, ma io voglio capire una cosa. Ma tu, per esempio, ti iscriverai a Forza Italia? Se mai ci ma sarà Forza Italia. Il mio progetto politico è ben diverso. Cioè, tu nemmeno non ti iscriverai mai a Forza Italia? No, non sono mai stato iscritto, non mi iscriverò mai. Io ero in Parlamento prima di Berlusconi, sono sempre stato nel gruppo misto e ho avuto i collegamenti con lui nel momento in cui sono stato... E la Santanchè sarà il leader di Forza Italia, secondo te? No. Beh, faranno altre delle scemenze più straordinarie copiando la sinistra, faranno le primarie, fra minorati, ci saranno la Meloni, Alemanno, Alfano, la Santanchè, che uno di questi vincerà e prenderanno il 12%. Ma perché dici primarie, perché dici primarie tra minorati? Perché loro, perdendo Berlusconi, penseranno di avere il diritto democratico di poter fare delle primarie che stabiliscano finalmente che Forza Italia e il Popolo della Libertà sono come gli altri partiti, cioè una democrazia interna, che è un errore gravissimo, perché l'unica soluzione per cui Berlusconi possa vincere le elezioni e che lui sia la destra. Tolto lui, togli metà dei voti della destra, quindi non c'è più, non ci sono più due poli, ce n'è uno grande e due polini più piccoli che sono 5 Stelle e la destra, per cui saranno 50-20-20. A quel punto rinascerà un centro con due lati, due ali laterali che sono però incompatibili col bipolarismo, perché il bipolarismo si può essere se hai 37-36, 41-40, non se hai 50-20, no? Quindi rinascerà un centro dove confluiranno anche molti moderati, perché molti di destra votano Renzi, ma non vogliono votare PD. Ma come se ne esce da cosa di Berlusconi? Spiegami, da questa cosa di Berlusconi, come diavolo se ne esce secondo te? Non se ne esce più, finito. Cioè, finito? È finito. Ma non dovrebbe, secondo te, dimettersi lui dal Senato e andare a pulire il culo ai disabili? Quello che tu dici, cioè la soluzione dei servizi sociali è molto pittoresca e poi piena di variabili che possono farlo diventare... Scusa, si dimette lui dal Senato contro la casta dicendo non mi va più di stare in questo Parlamento di merda. Dopodiché, al contrario, va a pulire il culo ai disabili, detto con tutto il rispetto, ovviamente. Ha un suo vantaggio, senza dubbio, ma rischia di farlo diventare una macchietta, però, quindi a quel punto è molto... Voglio dire, lui l'unica possibilità che aveva l'ha perduta, ed era quella di mettersi con con i radicali prima di adesso. Io te l'avevo detto quando io gli davo suggerimenti che ma che radicale ma questa cosa della firma del referendum è una buffonata, dai, no, su. Ma all'epoca avrebbe dovuto far nominare ministro Pannella e impannellarsi molto prima e fare avere in Pannella il difensore come per Braibanti dei suoi diritti che sono stati evidentemente calpestati dall'azione giudiziaria finalizzata a colpirlo, però si è difeso da solo, quindi difendendosi da solo chi cazzo gli credeva, cioè non era credibile, doveva avere un procuratore a difenderlo e Pannella era adatto 2 anni fa a fare. Ma, dai, ma Pannella non è adatto a, ma lo vedi come va in giro, dai, no, su, okay. Vittorio, dai, quando arriva da te ti rovina lo studio, strappa tutti, ma non è tanto quello, ma sta messo come sta messo, dai, ma si può dare ancora, ma lo dico con rispetto, uno a un certo punto chiude baracche e burattini, ma non si può ancora continuare con Pannella. No, ma voglio dire, io non dico che bisogna continuare con Pannella, dico che il suo arrivo da Pannella adesso è tardivo. Doveva utilizzare Pannella, se fosse stato utile utilizzarlo, come è anche possibile, 2 anni fa, non adesso. Adesso è troppo tardi. Comunque, insomma, sono piccoli espedienti. Ma pure sta cosa qua che si mette là a firmare, manco lui sa quello che firma, leggi che il PDL ha approvato, la legge Giovanardi, la Bossi Fini. Questo prova che come statista è fuori gioco, non ha nessuna possibilità di andare avanti da nessuna parte perché non ha più neanche la corrispondenza col suo elettorato. Ma insomma, vabbè, mi pare che sia un caso ormai privo di interesse per Berlusconi. È divertente come caso giudiziario, ma non è divertente come caso politico. La zanza, la zanza, la zanza, la zanzara stronza che gira, che ronza, va zonzo tranquilla nella stanza. Quando mi vuoi chiamare, Giuseppe, io sono sempre a tua disposizione. La zanza, la zanza, la zanza, la danza. Albertini, vieni giù, che sei frocio pure tu. Zanzara nella stanza, lei russa e non si sveglia. Oh, Emilio Fede che firma i referendum radicali, anche lui, referendum sulla giustizia e non solo. Sentite, meglio fare il leader fuori dal Parlamento. Non respiro. Tanto più che una regola, né di Parlamento né di grillini eccetera, che possa impedire a te, ti dico il te se collega, o a me di fare il leader, lui farà il leader della nuova area. Però non dice, in Parlamento. Con questo Parlamento io lo farei più volentieri fuori, mi metto sotto una tenda e faccio il leader, cioè, capito? Perché francamente cosa vuol dire? Fare dentro il Parlamento con gli zainetti, come si chiamano, i picconi, ma che senso ha? Anzi, forse trovo che è più prestigioso, più bello, più emotivamente. Nella stanza e me pinza quella stronza. Francesco da Firenze, buonasera. Sì, buonasera, salve Cruciani, che complimenti per la trasmissione. Allora, due cose semplici su Matteo Renzi. Allora, siccome Renzi oggi, mi sembra che sia oggi, ha avuto questa idea brillante di intervenire sulla questione di Berlusconi, sembra che non abbia detto niente di nuovo, come del resto non dice niente di nuovo da quando è sceso in politica. Cioè dire, sì, Renzi. Sì, Renzi. No, ha detto un sacco di cose, non è vero che non ha detto niente, no, ha detto un sacco di cose, ovviamente anche pronunciamenti un po' generici, anche parole che poi ovviamente vanno supportate dai fatti e dai provvedimenti e tutto quello che vogliamo. Adesso mi sembra che come dire, la sua carica innovativa sia diventata un po' troppo di sinistra, ecco, insomma, per capirci, no? Cioè, per ottenere il consenso del Partito Democratico abbia spento un po' la sua carica rivoluzionaria, liberale, cioè, questo è il mio parere, poi vedremo. Comunque questo è il suo parere, ma sono abbastanza d'accordo con lei. Io sono però più che altro dell'idea che sia un personaggio, che lo dimostra a Firenze, io lo chiamo da Firenze per appunto sono voluto intervenire su di lui, che fa molti proclami, molte parole, ma poi i fatti non li stringe. Mi piacerebbe che lei, Cruciani, come del resto il suo collega Parezzo, abitasse o comunque venisse qualche volta a Firenze a vedere la condizione di questa città. Vabbè, guardi, sulle condizioni di Firenze ci sono i pareri più discordanti. Conta solo una cosa, conta il consenso che tu hai, i voti che riesci a prendere. Se quello, se mai si ricandiderà e non si ricandiderà sindaco di Firenze, alla fine vedremo se avrà fatto bene o male. Ma abbiamo con noi padre Fedele Bisceglia. Buonasera. Buonasera a voi tutti. Come sta, padre? Io sto benissimo. Se voi siete impegnati con un'altra trasmissione, la possiamo fare anche domani, soltanto anticipiamo qualche notizia. Anticipiamo e facciamo domani. Senta padre, lei allora, insomma, ormai ex parroco, fondatore di una onlus, il paradiso dei poveri, accusato di reati gravissimi, gravissimi, condannato pure per violenza sessuale, lei si è sempre proclamato innocente, bisogna dirlo, però è stato condannato per violenza sessuale, o sbaglio? Io sono stato condannato da una calunnia, ecco perché ho scritto. Ma a quanti anni? A quanti anni? Sei stupri mai pensati di una Sortani Alesci che è stata una collaborata sola dalle sue consorelle, sì, da preti e frati, perché dovete sapere che i più grandi nemici della Chiesa sono nella Chiesa. E io voglio parlare anche di questo. Bravo, ma domani, domani ne parliamo in maniera diffusa. Io la cosa che voglio sapere da lei, padre Bisceglia, lei dice: Silvio, vieni in Calabria a scontarla. Che vuol dire questa cosa? Che cosa? Cioè, qual è l'invito a Berlusconi, padre Bisceglia? L'invito a Berlusconi, che è stato condannato e quindi deve accettare. Ingiustamente lo deve accettare, come Gesù Cristo ha accettato di morire sulla croce. Sì. Non ci sono altri mezzi. Cioè, deve mettersi l'anima in pace, dice lei. Sì, si sarebbe veramente un caso abnorme se lui ricevesse per esempio la grazia, la dispensa dal capo dello però, Stato. Però scusi, allora, un attimo Bisceglia, lei è stesso, anche lei è stato condannato per... Ma io l'ho accettata la condanna. Beh, però che lei dice a me degli uomini, che me ne frega degli uomini. Beh, che gliene frega, No, che me ne frega, io guardo soltanto Dio, guardo Gesù crocifisso e basta. Ma lei l'ha mai toccata una donna in vita sua? Mai toccata. Neanche pensata. Beh, ecco, neanche pensata, padre, adesso questo mi sembra esagerato. Lei ha pure pensato. Ma di che cosa sta parlando lei, della donna in genere o della cosa? No, di quel, no, ma non lasciamo perdere la suora, il casino delle suore, lasciamo perdere. Non lasciamo perdere, io sono stato condannato. E poi domani ne parliamo, ma io la domani cosa... ne parliamo, va bene. La cosa che voglio sapere, Bisceglia, perché lei invita Berlusconi in Calabria? Lo invito perché ci voglio bene. Da sacerdote gli vuole da bene. Sacerdote missionario, perché lui deve accettare questa condanna, sì, a di suo innocente. E tanto che ti propongo, ma lei pensa che sia innocente? Lei pensa che sia innocente Berlusconi? No, questo non lo sa. A me giudicare lui. Però scusi, ma le pare possibile che Berlusconi viene a scontare non so che cosa, a scontare la pena ai servizi sociali da lei, che no, è stato condannato per stupro? Scusi, abbia pazienza, però mi sembra perché tutto... no? Io sono stato condannato per stupro, però innocentemente. Allora ho capito qual è la questione. Ah, e qual è la questione? Io sono innocente, lui è innocente, tu è innocente. A due innocenti, capito? No, ma io l'ho capito benissimo, questa è la cosa. Scusi un attimo, ma lei dove lo ospiterebbe Berlusconi lì? All'Oasi Francescana, al Paradiso dei Poveri. Ah, al Paradiso dei Poveri. E che si fa? E che dovrebbe fare Berlusconi là? Cosa potrebbe fare, per esempio? Potrebbe fare aiutare i poveri. Sì. Collaborare con me. Sì. Ingrandire l'opera, perché sì, lui qualche soldino ce l'avrà. Sì. Pregare insieme. Sì. Senti, di questo cosa vuol dire? E ci facciamo sante tutti e due. Scusi, hai capito qual è la questione? Un attimo, è molto interessante il discorso. No, ma si figuri, secondo me è una grandissima proposta. Cioè, ma ce ne sono altre. Le altre proposte sono delle cazzate. Mi scuso l'espressione. No, ma lei può usare tutte le espressioni che vuole. Qui è un porto franco. No, lo so, però. No, però è giusto. Sono medico, io mi. Medico, altre volte uso anche termini scientifici. Eppure medico. Io sono un medico missionario, fratello. Ma scusi un attimo, lauree. Padre Bisceglia, ma è ancora fa il tifo per il Cosenza lei? Sempre. Ma si definì? Ho preso un po' di paura, ma abbiamo vinto. Avete vinto? Ma dove state adesso? In terza serie, quarta? Dove state? No, in C2. C2, quella che era una volta la C2, come si chiama adesso? Non mi ricordo nemmeno. Lei andava sempre in curva, me lo ricordo. Sempre. Io ho acquistato. Bisogna andare laddove da c'è dove? Bisogno. Beh, c'è bisogno in curva, giovani, bisogno, insomma. E allora praticamente voglio togliere i giovani dalle devianze giovanili. Sì, qual certo è il metodo più bello? Qual quello è? Dello sport, del calcio in particolare. Sì, però c'hanno anche bei delinquenti lì in curva ogni tanto. No, sì, veramente in curva c'entrano già da delinquenti o da santi. Ah, ho capito. non mi si richiama. Scusa, ma come se la immagina lei, padre Bisceglia, questo, come dire, questa permanenza di Berlusconi da lei? Come se la immagina? Una giornata tipo, quale potrebbe bellissima essere? Bellissima, faremo stordire il mondo. La foto. Mattina sveglia. Sì, a che ora? A che ora? Presto, perché bisogna fare le lodi. Sì. Pregare, poi sì, fare colazione, sì, poi incontrare i poveri, sì, aiutarli, sì, poi fare colazione a a mezzogiorno, sì, poi fare un po' di siesta, sì, poi di nuovo la preghiera con i vespri, sì, la coroncina della Madonna, sì, ecco, noi ci dobbiamo preparare perché tutto non abbiamo più 18 anni, tutto io così, sono 75, lui 76, ma quando vuole campare lui? Ma siete coetanei anche, no? Praticamente. Anche coetanei, ma scusate, Obiscelia, ma ci sono tentazioni là, no? Tentazioni, no, lì? No, no, ma le tentazioni sono dappertutto, perché nella vostra radio non ci sono tentazioni. fratello mio, che senza peccato scaglia la prima pietra. Ma guardi, io sono un peccatore di professione, per cui guarda. Allora siamo a posto, siamo... allora poi venite a conversare da me che ti assolvo. Vabbè, padre, ci sentiamo domani, mi raccomando. A domani alle 8:30, mi raccomando. No, che 8:30? Prima? Che prima? Facciamo prima lei, padre. Non ma si fammelo dire a che ora è dal suo ma sì, sì. Un abbraccio, padre, mi raccomando. Voglio salutare tutti quanti i vostri radioascoltatori, domani sarà veramente bello. Bellissimo, sarà uno spettacolo. A domani. Voi siete unidirezionali, per quello che cazzo, quello che dite voi è sempre giusto, quello che dicono gli altri, appena dice uno qualcosa di diverso, poi o tagliate oppure mettete l'ambulanza. E io, siccome è libera, posso parlare anche io. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30. Lo so, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. E che cos'è? E che è un bel ambiente. Ambiente di maiali. Radio 24. La passione si sente.